Non sono un Avengers, infatti. Cosa sei? Va bene, dovremmo essere in diretta. Dovrei indovinare? No, chi sa. Chi lo sa. Va bene, speriamo di non avere i soliti 1200 milioni di problemi. Benvenuti al 24esimo episodio di Colori. C'è Giulio Scarlett Johansson. Esatto. E 24esimo. Ed è così che interrompiamo Beth sulla presentazione. Beh, questo è ormai un classico. E benvenuti al 24esimo episodio di Coloni. Giocheremo a Dungeons and Dragons e forse lo faremo con un minimo di siamo anche in anticipo, troppo presto, mancano 10 minuti. Forse faremo con un minimo di tecnologia in più rispetto all'altra volta, anche se paradossalmente l'immagine potrebbe essere peggiore, però almeno dovrebbe essere più fluida. Non l'ho scelto io. In attesa di mezzi tecnologici superiori che non risolveranno nulla perché è una vita. Quindi oggi doppio master per pestare meglio i giocatori. Mi ha detto che i prossimi guanti da palestra non lo faccio il doppio master. Chi è il doppio master? I disegni delle gemme. Ah, sei tu? Sì. E il mio co-master oggi? Fare cambio? Devo fare uno sudare. Vai fare cambio? No, va bene qua, tengo tutto. E siamo più insieme, più in mezzo. Va bene. Vi ricordiamo che giochiamo a Dungeons, versione 5.0. Lo facciamo con le battute di Laz, che invece sono una versione che non vorremmo. C'è un non avremmo voluto raggiungere. Per reggermi. E no, c'è un sasso che regge il tablet per reggerti come al solito. Questo è tecnologia vecchio stile. Vuoi vedere? Ti faccio una foto e te la mando. Come forse avrete notato, sai che siamo all'età della pietra. Abbiamo con noi Edoardo Saladini da Marsiglia. Ah, perché è un sasso. Che però vedrete, per evitare esplosioni di computer, vedrete. Spiegalo al pubblico. Con la foto della. Se devi spiegarlo al pubblico. Ma continuamente io se tipo dico tutto. Quando le fa qualcun altro, tipo ci sorprendono, perché anche gli altri possono farle. Guarda, vicente questa cosa. Pensa di avere. E insieme a me invece Andrea Giacomo Vecchi da Bologna abbiamo Luca Lazzarini, Stefano Gamberoni, Giulio Bosi e il co-master Enrico Catabrini. No, non sarà co-master. Allora. Non sarà Enrico Catabrini. Che foto mi hai messo? Non si vederla, no? Sì. C'è da farmi vedere la foto di Laz. Sei tu a Marsiglia. Ma dai, ma che tribale, ma non mi vedete neanche voi. Ah no, sì, mi vedete dietro. Io non ti vedo, ho tutto davanti. Comunque vorrei sottolineare vuoi che spostiamo male quello di Urbanius che sorregge il mio. Non lo vedi? Vuoi che sposti un po' di più? Come lo vedi? Non lo voglio vedere, non mi piace Sol. No, non lo vedo comunque. No, è tutto in mezzo. Non so cosa dire, raga. O l'uno o l'altro. Te lo dico perché. Vedi, ho trovato il modo per far disperare Beth. Non vedo Salla. Ore 23. Ma invece l'altro non ho ancora trovato una. Dov'è la scatola che ti piace? Non c'è! Non c'è! No! Cosa fa? Non so! Sembra. È tipo rega, Sheldon. Regà, no? Un déjà vu! Meglio, peggio? Ora non lo vedo neanche io. Mezzo. Meglio? Sì, meglio. Perfetto. È la regia, Andrea Giacomo Vecchi. Va bene, così lo vedete? Non credo che l'altro gli freghi molto. Non lo vedo comunque. Sta giocando a poco. Scherzi. Va bene, allora, mandiamo prima la sigla e poi intanto potete... Io l'altra volta non l'ho sentita la sigla, mandala due volte. È vero, non hai fatto la sigla l'altra volta. È vero. Che imbarazzo. È anche per questo che non ci hanno rinnovato la stagione prossima. È tutto buio. Cosa vuol dire tutto buio? È tutto nero. Accendi la luce. Della polizia di nuovo. Beh, abbiamo le finestre chiuse. Quasi un pochino. Dopo master, penso che vorresti con un master. Sala, di allerta. E non possono contarsi, non è una cosa più. Poi quel giorno poi lui mi trasferisce a quelli tra fuori. Io lo so, non avevo capito che era. A che ora è? Al DLF? A luna pomeriggio. Sala non ci vede. Non so se rosico di più che non ci vede. A non provarne o rosicherà di più se ci vedi un sarebbe orario lavorativo. Ci vedi un casino? Permesso. Non ci vedi? Non ci senti? Non no, ci adesso sì. Adesso sì. Vabbè, dovevo fare YouTube anche dal tablet. Si vede che non posso fare le due cose insieme. Però ci sentivi prima? Non o non ci vedi nulla? Sì, no, mi sentivo, non mi vedevo. Vabbè, allora è non un computer so. Vecchio. È un tablet. Quante porte ha? Una. Fa gli spifferi. Allora, chi vuole fare, cioè chi vuole, chi fa il riassunto? Mi sembra che l'avevano scelto. Già, da si è proposto lui. No, però è vero, hanno ragione, ricordo che tu l'hai detto. Quindi... No, vai pure. Dai, facciamo così. Beh, uno tra l'asa e Sceo, non Sceo lo altri. Fa. Tiriamo un dado. Sceo non sa mai, lo fa lui. Tiriamo un dado. No, non lo fa Sceo. Che problema c'è? L'altro fa la prossima volta esatto, da là. Tiro un di 20. No, vai tu. Vai. No, non sono scatolo, non posso tirare i dadi. 17. Cos'era? Te la spacco in faccia. Perché c'è la scatola? Infatti, perché non c'è la scatola? Perché ho dovuto ridurre il numero di cose per non sovraccaricare. Io faccio la prima ora e mezza, tu fai la sessione. Dai, faccio la prossima, tanto tu non ci sei la prossima. Non ci sarà la prossima, qui fisicamente. No, in realtà se tiriamo i dadi qui forse si vedono. Vabbè, comunque allora io mi sposto là. Diciamo che tiri là dietro la salata. Più che il riassunto, direi che è il caso di raccontare una storia. Una storia che voi non avete visto. Una ma storia lo che faccio io perché ci ho mangiato tutto il cazzo. No, è arrivato il messaggio adesso di Justit che il fattorino l'ho lasciato. Sì, anche a me arriva sempre ritardissimo. Dici che arriva dell'altro cibo. Magari. E il protagonista di questa storia è quello che di solito, quando ci troviamo, è quello che comanda la scena e... decide quello che succede, ma non questa volta. Diciamo che non ha deciso, ma ha subito. Per un paio di intoppi tecnologici. Voi purtroppo non l'avete vista, ma c'è stata una buona oretta esilarante con il nostro amico Andrea Giacomo Vecchi nei tentativi di regia per poi tornare all'età della pietra. L'avete intuito, visto che abbiamo fatto una diretta vecchio stile, ma esatto. Vecchio stile fatto male. E che però magari in realtà da un punto di vista grafico era migliore delle altre, perché almeno non era a scatti, però vabbè, è la triste realtà. No vabbè, mi aiutate solo dove iniziava la sessione, perché no. Che io ho fatto il riassuntone e io partirei da troppo indietro, da troppo allora avanti. Praticamente ci siamo imbarcati su una nave. No, se ricordo bene eravamo in questo luogo sacro. Eravamo a Saradovia, no? Eravamo in questo luogo sacro. Aspetta, tu eri un altro personaggio, quello qui. E, in cui ognuno di voi ha avuto una sorta di epifania. Viaggio. Ma è fuori periodo. Viaggio mentale, esperienza extracorporea, non so come chiamarla. Dov'è che avevo la mazza da Despo? Alla fine di quando ci siamo ritrovati tutti in una stanza spostata. Dove la statua di una sfinge spostata. Si è mossa che non c'era a parlare. Cioè, alla fine qua non hai bisogno di una grande città. Che fa spettacolo. Scusa, Sceo. Vai. Siamo ritrovati in una stanza. Lasciamo tutti e ascoltiamo Sceo. Dove la statua di una sfinge ha cominciato a muoversi a parlarci. Giusto? Sì. Dopo il labirinto, sì. Hai fatto il tuo... Dopo che ognuno ha avuto un'esperienza... Tu hai fatto il tuo percorso, esatto. Cosa hai scoperto dal percorso? Beh, non è che ho proprio scoperto. Diciamo che ho... da quello che ho appreso, da quello che ha provato a dirmi lo spirito, che è poi lo spirito. Ma chi era quello spirito in realtà? Beh, era Cypher. No. Cioè, sì, visivamente, ma non gliela rifare, in realtà chi era? La spingi probabilmente, cioè lo stesso. No, scusami. Allora non sei passato, torniamo alla stanza dietro. Scalo un livello. Da quello che ho capito. Tu lo vedevi come Cypher, ma in realtà alla fine chi era veramente che stava parlando con te in quel momento? Io. Esatto. Ah no, allora ho capito. Cioè, era una sorta di doppio... Come Aster. Perché infatti mi ha fatto capire che sono alla ricerca di me stesso. Poi sono un'interrogazione. Tutti insieme in questa stanza... È tipo un'interrogazione questa cosa qua. In questa stanza dove la spina è cominciata a parlarci e poco dopo ci ha attaccati. L'abbiamo sconfitta. Beh, ha fatto anche qualcosa la spina. Senza voler entrare troppo nei dettagli, però. Ha continuato a farci. Tipo, ho fatto un indovinello, queste robe qua. Vabbè, va bene. Sì. No, ha continuato un po'. Botte! No, oh, no, hai ragione. Una storia ci ha raccontato. Esatto, ci ha raccontato una storia. Alla fine della storia ci ha chiesto chi di voi ha capito come ha fatto questo essere a sconfiggere i propri dei. Gli dei, sì. È arrivata alla soluzione Giulio dicendo morendo, perché chi è Giulio? Arian. Perché ha detto, ah sì, in sostanza l'unico dio di se stesso sei tu. Vi ricordate su chi era la storia? Su Giulio, un viandante che accumula conoscenza, il vecchio viandante. Non a caso fa parte del titolo della diretta. Come si chiama stasera? Avanti e indietro. Non va, cioè, tanto qualunque cosa, tipo tutti tesoro per l'As. Oh, che palle! Tutto dopo per me, niente per gli altri, che cazzo. La spinge. Qualcuno ha tentato di incidere il proprio simbolo sul piedistallo, ma io ho distrutto prima la spinge. Ha distrutto la spinge, poi ha tentato di incidere il simbolo sul piedistallo, ma è svanito di fatto. Ritornando ad esserci solo il simbolo che è un labirinto stilizzato, la pianta di un labirinto, non sì, so dire. È il simbolo di un labirinto, sì. Ma nessuno di noi l'ha riconosciuto, con un punto al centro dove finisce il labirinto, esatto. Però molto nessuno di noi ha riconosciuto nulla. E Scatta, se non sbaglio, se l'hai segnato come se potesse essere una mappa, se non sbaglio. Mi avevi detto sì, che qualcuno aveva detto me lo segno, volevi farlo. E poi si è aperto il sarcofago che c'era già prima al centro della stanza e ha rivelato un tesoro abbondante tra monete d'oro e altro. Che adesso avrete. Che adesso avrete. Ed è qui che cominciamo. E poi no. Cosa vuoi dire? Cioè, non c'era la figura del... Ah, è vero, sì. Del vecchio... Un vecchio che avete... Un vecchio che con la coda dell'occhio è come se fosse apparso all'improvviso nella stanza e stava uscendo. Noi l'abbiamo seguito fino all'uscita. Sì. E sei richiuso alle nostre spalle, lasciando lì il tesoro. Voto? Esatto, tesoro che io ho scritto, ma non avete raccolto. Voto 10. Allora, nel tesoro ci sono un arco, uno stocco, un bastone. Qualcuno lo sta segnando. Una scatola di legno. Aspetta, piccolina. Aspetta, nessuno lo sta segnando. Vabbè, quello che riuscite a segnare, segnatelo. Dei bracciali. Una piccola pietra rossa. Spinge. Fa parte del tesoro. No, c'era un arco all'inizio. Piccola pietra. Rosso. Stocco. È affilato. Sì, molto affilato. Un altro stocco che... uguale a quello di prima. Doppio. Un arco molto bello. Che schifo, le armi. Un bastone di legno. Molto lungo. Tarsiato, molto particolare. Una piccola scatola di legno di aspetta, se allora un pollice quant'è, scusate? 2 centimetri e mezzo, 45. Se non sbaglio è, aspetta, può dirlo il pollice, aspetta se arrivo, allora è 30 centimetri di lunghezza, non è piccolo. 5 e poi e 15 e 15 15 vabbè, una scatoletta di legno. Beh, un piccolo scrigno, un piccolo scrigno, sì, un po' più grande del tuo. E poi c'è una piccola pietra rossa tipo circolare, molto rosso, molto scuro, molto, anzi no, in realtà un po' più grande, va bene comunque. E una borsa tutta con dei un gioco di Pokémon, e una borsa, diciamo, con varie rune sopra. E poi ci sono 50.000 monete d'oro. Cosa? Posso fare resuscitare un sacco di gente adesso. Tipo il mio primo. 20 ametiste. Mi è morto troppo tempo, mi serve la sorrazione di fuoco. 40 zirconi. 50.000? 50.000 monete d'oro. Che schifo di questo gioco! Io un cazzo non possiamo usarle, cazzo. Sapevo che avresti detto, no, non c'è. Era scontato quando la merda. Fatto la merda la mattina. Cosa sei rimasto? 40 zirconi ne hai messi? Sento la merda. 10 topazzi, 3 zaffiri blu, 3 zaffiri gialli, 2 zaffiri neri. E in fondo c'è una pietra circolare, piatta, con sopra il simbolo del labirinto incavato. La pietra è pietra o è di quale? Una pietra. Pietra. No, è una pietra, sacca. Sì, una pietra esatto, circolare, piatta. Io, abbiamo tempo, 2 minuti di parlare mentre raccogliamo il tesoro. I bracciali li hai messi? C'erano, no. C'erano dei bracciali. E io chiedo a... il mio amico no, gli chiedo, visto che non sappiamo la provenienza di questi oggetti, secondo te potrebbe esserci qualcosa di pericoloso o stranamente magico? Meglio che non tocchi nulla. Mentre si tipo si stava bagnando, no, le monete d'oro. Guardo in modo particolare quello ero io. Guardo in modo particolare quel piccolo scrigno. Allora, mi sono rimasti ben incantesimi uno di terzo. Long rest. Ah, già ce volete provare. Ma mi sa che l'individuazione magica è di secondo. Quindi io per lanciare un terzo. Hai lanciato dei fulmini all'ottavo livello per distruggere epicamente una spina. Quindi faceva molto flavor. No, cioè, chiedo in generale, ma anche solo per tua conoscenza, cioè secondo te è una scatola. Sì. Ma è rituale, mi sa che lo puoi fare lo stesso. Ma cazzo, è vero, posso fare lo stesso. Non lo farò però. Che palle, ah, no. Salla. Ma anche di no. Cioè... Fai anche non palla. È rituale. No, di primo livello. Non detect magic, però non ti dice cosa fanno gli oggetti. No, se però non dico se è magico. Quindi le aure magiche, il tipo di magia, la potenza. Però aspetta, ha un incantesimo che individua il coso. E servono monete d'oro, che adesso abbiamo. Ma non ti daremo. Dipende se ne vuole. Vabbè, intanto faccio detect magic. Rituale, 10 minuti. Ok. Ma quello non ti può permettere di lanciarlo senza averlo preparato il rituale? Senza consumarlo. Senza consumarlo. La magia è presente su arco, stocco, bastone, scatola, bracciali, pietra piccola e borsa. In teoria scopre anche che tipo di magia è. E adesso se lo dirai. Adesso stanno seguendo. Magie varie. Fate un tiro di arcana per capire cosa io ho chiesto. Magie varie. Io ho parlato con lui in particolare della scatola. Irrilevante. Magie varie. No, fermo. Fatemelo su ogni oggetto, mi fate un arcano. Ok, dimmi in ordine. Questo è il 10, dimmi tu su quale lo vuoi fare. È sul primo, andiamo in piccola ordine. Piccola arco. Arco 10. 10 più? È intelligenza. Probabilmente questo arco ha... probabilmente una spada. Ha dei poteri, ha dei poteri magici, cioè un arco magico che fa dei danni. Philip, quest'arco è per te. Su cosa siamo? 15 secondi dopo piccola la pietra. Piccola pietra. 15. Piccola pietra. La piccola pietra fornisce un aumento a una caratteristica, probabilmente la qualcosa che ha a che fare con l'agilità. Non è utile. Può essere qualcuno di 6 bracciali. Bracciali 6. I bracciali hanno una magia, però una borsa con delle rune 9 no, non sai, però magari si può provare a buttare dentro qualcosa. Aspetta le rune io le posso leggere, sono di quel tipo lì. Perché no, tira con vantaggio. Ehi, non sono riuscito a riconoscere che tipo di rune sono. Non sono scatola. 15 più 2 17. Allora, questa borsa probabilmente ha il potere di contenere più di quello che sembra. Ah, l'apriamo. Quindi mettiamo tutti gli oggetti nella borsa. Oppure vediamo cosa c'è dentro. L'apriamo. Cosa c'è dentro? Stocco, ci serve stocco e bastone. Che è? Vediamo, ci sta divertendo. 5. Stocco. Stocco, bastone. In ordine, chi c'è? Stocco, ma questo stocco magari è uguale a quello di prima. Magari più 7 se fai un critico. 14 il bastone. Bastone. Questo bastone ha un potere secondo te molto forte. Sicuramente ha un potere legato alla guarigione, ma forse c'è qualcosa di più. Manca la scatola. Apro la borsa. La scatola, direi. Ah, scusate. L'unica cosa che ti ho chiesto di analizzare. Entro nella borsa. No, non funziona. 16. Bravo. Questa scatola probabilmente necessita dei comandi che la trasformano in qualcosa di diverso. Però ora come ora non sapresti cosa, bisognerebbe dargli un comando e vedere. Ok, io dico questo e dico se volete posso scoprire. Pensi che possa essere legato a delle superfici d'acqua. Non sai perché. Non so perché, penso che c'entri le superfici d'acqua. Cioè, pensi che in prossimità di superfici d'acqua possa funzionare con una voce decorata con dei pesci. Si trasformerà in una barca. Esatto, potrebbe essere. Apro la borsa. Potrebbe essere. È vuota. Dentro trovi un mostro. La faccia è da stupire, ma è grandissima. La tua faccia che ti dici? È me che stavi cercando, pezzo di merda! No, la borsa è vuota. Se fili la mano ti sembra abbastanza fonda. Prova a farsi cadere un sassolino. Mi ricordo il nostro viaggio sulla nave delle Baldracche. Ok, che schifo. Da. Va bene. Siamo accatto. Ciao, so, tagliamo. Cos'è? Sono schifo. Bravo, ispireci. Cosa? Che imbarazzo. Qui ci stava l'ispiration. Bene. Wow, c'è un sacco di spazio qua dentro. Faccia proprio a casa nostra per portare tutta questa roba. Oddio. Comincio a versare le monete dentro la ci borsa. Stanno 500 pounds. Non so quanto. 500 cosa? 250. Boh, comunque vabbè, potete guardarvi qua. Stanno 500 pound. Non ho scritto, però è la bag of holding fondamentalmente. Dicevi, vuoi usare le monete allora? Per io fare... mi dico che volendo posso scoprire esattamente cosa fanno gli oggetti. Non oggi perché ho finito il tempo. Perché sei stremato. Sono esausto. Boh, in realtà secondo me è l'unico modo per sapere esattamente cosa fanno, visto che non c'è nessuno che li valuta. Quindi si potrebbe anche fare. Mi sono tornato la moneta, noi possiamo usare qua. Che per dove siamo non è che ci attiveremo molto in giro. Sì, ho un incantesimo che se tocco un oggetto mi dice su proprietà come poterlo usare. Quante cariche eventualmente, qualsiasi incantesimo che c'è sopra. E quanto che costa ogni volta? No, no. Bah, non era anche tanto. Libre, esatto. 50.000. 50.000. No. Sono libre? Sì. Quanto costa una volta? Se sono libre sono tipo 200 kg. Sì, tipo 1000. 50.000 abbiamo. Sì. Okay. Beh, direi che possiamo tornare. Tanto non è l'incantesimo, hai detto, no? Torniamo al campo. No, che sì. Sì, questo qui non lo poseremo. No, posso farlo come rituale anche questo. Volendo posso rifarlo. Beh, il culo l'arco. Vabbè, aspetta, vuole fare. Lo può fare adesso, ho detto. Di dire esattamente che cos'hanno. Che effetto hanno. Neanche un po' di vasella. Però ci metto 10 minuti. Vabbè. Tanto non ha senso farlo subito, così eventualmente se qualcosa è utile per ognuno di noi. Ma adesso vediamo il vecchio e scappiamo via, giusto? Sì, potete quello, farlo cioè. Quando siete nella foresta, tranquillamente. Va bene. E dipende fra quanto appare il vecchio, perché noi siamo lì che ravagniamo gli oggetti. No, vabbè, se volete potete farlo. Ma magari ne faccio su un paio e gli altri dopo. Potete farlo anche lì, non c'è problema. Dai, facciamo un paio di oggetti. Scala le monete e fallo. Quanto state perdendo di quello che vi ho dato? 200 monete d'oro. Ma le sacrifichi proprio così? No, ma fallo con tutti, ha detto che possiamo farlo con tutti, dai. Tutti subito, così sì. Sono 10 minuti ognuno. Vabbè, ha detto che possiamo farlo. Potete fare quello che tu intanto fatti lo short rest. Vabbè, allora poi ti raccontiamo tutti gli oggetti. Dai, diciamo che la borsa no, perché la borsa non l'ha capita, diciamo gli altri tanto vale. Boh, quello che vabbè. Cioè dipende sì, quanto in realtà di spesa. Cioè, la pietra è un bonus all'agilità, lo so. Esatto. No, beh, dico gli altri, fallo, tanto abbiamo quello di cui non hai capito. Tutti a parte due, quanti sono in totale gli oggetti? Sono in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, allora, meno 5. 2, 5, 500. Togli 500 monete. Di quelli di cui sei andato veramente vicino. Quindi sai di cosa fanno esattamente? Esattamente cosa sono. L'arco è più 2, lo stocco è più 2. Il due cosa il colpire? Più due danni colpire. Ah, il la scatola praticamente potete andarla a vedere a pagina 170, cioè proprio hai questa sensazione. E praticamente, se non mi ricordo male, fa con un comando si trasforma in una tipo in una barchetta, con altro comando si trasforma in una nave. E con un altro ritorna una. Come lo vuoi chiamare? Ma la nave. Durata infinita. Finché tu non la. Domanda interessante. Pagina 170 per le risposte. Catta. Catta. Come la vuoi chiamare la tua nuova nave? Folding box. Ma la domanda, quanto che tempo fantasia. Ci metti a farlo così tutta sta roba? 50 minuti. Short rest! Taradaradaradarada. Sì. E che cos'altro avevamo? I bracciali potete vederli a pagina 156 e danno un più 2 alla CA e hanno danno un più 2 alla CA solo se non indossi armatura o scudo. Ok, non mi frega tipo della serie condividete con Sceo no, io li prendo. Se non rivolgo nessuno, basta cosa... il bastone. No, la pietra non l'avete fatta. Il bastone. Mi rimetto sul fatto che potrebbe essere un po' diverso, ma lo potete vedere a pagina 197. E ha 5 cariche. Con una carica fa cura. Heal. E con 5 cariche fa resurrezione. Recupera una carica al giorno. Però se fa resurrezione c'è una possibilità che scompaia. E mi rimetto al fatto che possa essere diverso da quello che dice lì. Che è solo se fa uno fondamentalmente. Cioè che scompare fisso. Esatto, cioè tu pensi che sia un po' diverso, cioè abbia qualcosa di diverso in più che scoprirai solo se lo usi. Beh, figo però. Puoi morire. Un bello oggetto. E gag a parte, posso segnarmeli i bracciali o avete cosa di dire? Beh, sono abbastanza da effeminati, non li indosserò di certo. Direi che ci sono tipo due oggetti per Sceo e uno per ognuno di voi, mi sembra. Beh, perché due? La pietra poi si è utile a lui. Ma non no, so io se ho può occupato, no. Ho 20. E poi ha 26 oggetti magici. Sì, esatto, oltretutto. Anch'io però con gli oggetti forse puoi andare sopra. Per me sì, però ne puoi usare, sì. Poi dipende se richiedono la attunement. Anche, allora anche lui la può usare. Tu la usi Zillity con Warrior, al massimo facciamo un tiro. Guardate quanti oggetti. Ma fate un'asta e. No, ma io che oggetti ho? Nessuno, non lo prendo io. Così a cazzo. Vabbè, se si può andare sopra conviene a noi perché facciamo danni. Sì, ma lo uso solo mentre combatto. Ah, il martello e poi il bastone deve averlo o un paladino o un chierico. Solo per farlo. No, comunque se si può andare sopra ci conviene a uno di noi tre per i danni. No, ma te non è no, che lo usate voi. A me conviene avere alta la CA. Sinceramente questo oggetto mi fa comodo. No, però sì, no, più che altro cioè, fa comodo anche perché sono l'unico che non usa armatura. E la pietra, boh. La pietra con la pietra si può andare sopra. Non ne ho usato anch'io. Ma tu sei già a 20 o no? Che cosa? Sei già a 20 con l'agility? No, io dico i bracciali, però no. Tu sei sempre lontano. Mi ricordo direi che. Se ti scoccia, fammela vedere anche se non potrei sentire. Anche se tu hai più punti ferita di me, faccio io il tank dei due, quindi. No, ho già dei bracciali magici. Ah, ok. Per la classe armatura intendi? No. No, sì, esatto, ce l'ho già le cose magiche che volevo ora. Non lo so, la pietra. La pietra massimo di 20, massimo però. Di 20. Dipende se poi massimo di 20. Posto. Quindi la usano loro due a caso. Già, esatto. Io ho 20, tu anche. Cazzo, ma quindi è inutile. Sì. No, la prendo io. Sì, no. Anch'io 20. Beh, ma quel bene, tu. Comunque sì, aumenta la classe armatura, Schifo non fa. Non ho più o meno uno. No, stiamo parlando della. Cazzo, mi sono dare un altro oggetto a scelta. Dipende che armatura ha. Dipende che armatura hai. Cazzo, devo fare trovare un'altra. Sì, ma è l'unico oggetto che ha. A meno che questa pietra non sia così magica da superare anche il 20. Ecco. Vabbè. Tanto 21 che cazzo te ne fai? Le 6? No, 22, 2 più 2. Sono più 2 questi oggetti di solito. Più 2. Quindi. Beh, allora. A meno che il master non decida. Sei il master. No, volevo darti un oggetto utile e non sapevo fossi già a 20. Pensavo fossi rimasto indietro. Quindi l'arco più 2. Salla. Io sono forte, non è che. Mi hai dato 2 livelli in una sessione. D'altra parte, non so. Arco più 2 la prende tanta roba, raso, e non si lamenta. Wow. Beh, direi di no. Secondo me si lamenta troppo. Tra l'altro, così puoi anche combattere a due armi. Che non ho preso il talento, quindi no. Non c'è un talento. Quindi troppi malus. Poi tanto non faccio il furtivo. Non c'è nessun malus. Ti toglie solo dei danni. Toglie solo. Esatto, no, non c'è uno dei danni. Braccioli, no, ne farò sempre uno. Fai tipo un attacco in più. Beh, il bastone di Alessandro, cioè, sì, lo prende uno, ma lo fai tipo un attacco in più che se fai con l'altro, fai 20, fai di 7 danni. Io perché sono una cosa. No, scusate. Ma non può usarlo chiunque? No, Aladino chi è? Ah, scusa. Senti, ho una domanda, l'arco è un arco lungo? È l'arco che usi tu. È l'arco che usi tu. La pietra... Chi è che hai i guanti? Io. Tu quindi... Ah beh, l'altro non hai bisogno di attunement, quello fiale. No. Ma neanche i guanti, mi pare. I volati non servivano, I guanti non ne puoi ricordare. Proprio sì. Sì. La borsa e la scatola. Vabbè, la borsa direi che la teniamo per tutto... Quindi cos'è che ha un bastone? No, paradossalmente quelli li potresti dare a Sheo. Come si chiama se la combattessi con due armi. Cosa? Ma io non penso di non farlo con due armi, adesso ci penso un attimo. Non mi ricordo, dovrei rileggere, ma non c'è dei malus a colpire qua con due armi. No, è che tanto io con un attacco non faccio il furtivo, quindi per fare pochi danni in più alla fine. Ah, cioè fai tipo di 6 in più, in sostanza, se fai il secondo di 8, sì. Sì, di 8. E se spende tutte e 5 le cariche, resurrection. Ma potrebbe succedere. Ma scusa, sti cazzo, ma prendi uno scudo, Las. Vabbè, ma se no scusa, facciamo una cosa. Facciamo un cambio volante. Prenditi almeno quello. Tu i danni li fai su destrezza o su forza? Io i danni li faccio su destrezza. Allora è impossibile, dai. No, me la prendete. Mi ho comprato un bicchiere. Perché se sparo saggezza questi arrivano. No, sono 20. Puoi provare 20. Con carisma. Il carisma lo prendo io. Più che altro, scusa, carisma. La saggezza serve per la cassa di difficoltà contro il mio corpo stordente. No. Hai anche il mantello e tutto, però, non ti becca mai. Cioè, basta. Ancora meglio. Appunto. Beh, tanto attacca a me ultimo. A meno che quella pietra non sia così magica che supera più 0, così non ho un meno 1 in inizio. Ogni tanto dire quello un pochino. Dovrebbe essere nemmeno l'ultimo difetto. Ho ancora 8 in intelligenza. Io 8 in destrezza. Anch'io. Quindi forse uno deve prenderlo lui. Uno di voi due deve prendere il bastone, però io ho preso il bastone. Sì, sì, sì. Bastone e martello. Cioè quindi. Illimitato. Il casco cura ferite da un. Vabbè, ora che siete molto più potenti del vostro livello, possiamo andare avanti. Già lo eravamo, quindi. Cosa succede? Tu parli per te perché hai tipo mille cose. Sei già bloccata? Cazzo vuoi? Mille cose? No, mille cose non di oggetti, dico, di tue piccole. Ecco io! Appunto. È già saltata la diretta? E niente, Vezza sta già bestemmiando. No, non è saltata la diretta, solo qua si è bloccata. Va bene, va bene. Il nostro cuore. Non immagino cosa si farà trovare oggi, quindi. Va bene, vai. Un vecchietto che scappa. Philip vi guida nella foresta. Dovete tornare al punto di incontro. Ok, vediamo se c'ho una scena con la mappa. Per quanto non vedremo. Eccola qua. La vedete qua, per chi la vuole vedere. E, praticamente voi vi siete portati un po', diciamo, a nord nella foresta vecchia e siete vicini alle montagne. Dovete tornare al punto di incontro tra i due fiumi, che poi è lo stesso fiume, ma insomma dove si biforca, e lì troverete gli altri ranger. E vi... È Healing World. Siamo qui e dobbiamo andare. Healing. Ial. Ah, Ial. Ial. Ah, cazzo, no? Che cazzo? Che i... Che no, è Ial o Cure Wounds? No, Ial. Ial. No, è Ial. Pronto. Quindi tipo le robe che ci avete dato. Usalo per levarci. È di sesto. Gravissimo. È di sesto. Ah. Usalo per togliersi i cosi che abbiamo ancora. Posso farlo. Perché no? Il cura 70 punti ferita. Sì, non è strasgrano. Non massimale lì. Ah, ok. Questo all'incantesimo. Questo vuol dire che Beth adesso ci fa trovare tipo 6 draghi. In effetti recuperarne uno al giorno mi sembra una roba un po'. Sgravissima. Considera che è uno di sesto. Cioè. L'incantesimo che fa è un incantesimo di sesto. Ne fa tipo 5. È forte. È forte, ma insomma io ne faccio 2-3. Insomma, vabbè, sì, lo butto. Tanto sappiamo tutti che non userò molto spesso. Beh, è vero anche quello. Vai. Sì, ora siete troppo forti. Vai. Abbiamo fatto lo short. Raddoppiamo questi mostri. Ah, guarda. Io sono full, Giulio. Devevo sì, lo so, ma c'è io i punti ferita. Facciamolo così, dai. Ma siamo messi malissimo, Vez, ancora dal combattimento. Sì. No, abbiamo fatto uno short rest, io sono full. Va bene. Philip, fammi un tiro di survival. Sì, ma non possiamo combattere Giulio. Io non ho fatto lo short rest, io stavo facendo i rituali. Vabbè, ma voi immagino che uscirete e vi nasconderete in un buco per dormire, una cosa del genere, giusto? 29. Va bene. 25 totale, 25. Trovi una grotta. Perfetto. Allora. Philip nel corso dei giorni vi riporta sulla giorni? Quanti giorni? Ottima domanda. E ci avevate messo, non lo so, 5 giorni? Ah. Una roba del genere. Vi riporta in quella zona lì. Ma prima che faccio che non sono pazzoccoso. Allora io nei giorni di cammino rimuovo la limitazione ai malus. C'è anche un emoticon di una scimmia. Ok, dopo il primo giorno però quanti ne hai tolti? Due. Ok. Io me ne ho tolto. Arrivate a un certo punto verso il crepuscolo. Praticamente in un punto dove mi fate tutti un perception. Non ce la facciamo. 19 totale. Sto bene anche 5. Va bene, Sirro. No, scherzo. Io faccio 7, no, okay. 8. Ok, tiro anche per lui? No. Allora, Eric, tu ti rendi conto che poco avanti a voi c'è la presenza di un gruppo abbastanza nutrito tra gli alberi. Forse conviene andare con circospezione. Direi di aspettare la loro pennichella. Cioè, esatto. Fermo lui che ci sta guidando e gli dico sì. Di fare a te Philip mi viene il nome e lo fermo e gli dico guarda ci sono delle presenze qui davanti e infatti questa è la strada sbagliata osserva con attenzione. Va bene. Infatti questa è la strada sbagliata e mi giro e a che ora del giorno siamo? Siete al crepuscolo, quindi quasi il momento di accamparvi. Vediamo già dei fuochi di questa gente, sono accampati. Dipende se vi avvicinate, tu l'hai fiutata la cosa un po' di distanza. Allora faccio... sì, dai, e gli dico di fermarsi loro e vado avanti in stealth. Vai, sì. In Horsens, Jackie Horsens, bilicone, oppure 8. 8 più 10. No, bilico, sono... vai, vai, ritiro. 8, 18. Infatti, beh, era super 26. Ridico. Ok, ti avvicini molto silenziosamente e vedi questo grande conciliabolo dove stanno proprio aprendo, accendendo il fuoco con, per arrostire i nani. Un bisonte, anzi due bisonti, dei troll. Quanti? 10. I troll non vi spaventano più. 10 troll, sei buono. Non vi spaventano 10 troll. Ah, dai, Jack. No, ok, se sono quei troll, no. No. Secondo me servirsi un bel film. No, in realtà lui ha detto che è la merda. Lo so. Sono 10 troll. Il più brutto di tutti. Che è una trollata. Eh? È una trollata. 10 troll. Mi stai accennando con le righe. Che questi non dormono di sicuro. No, quindi... Cioè, aspetta, ma stavamo... cioè, mentre lui... No, quando? In che momento? Ah, niente, sono sorpreso, ci stavo attaccando. Solo sulla vostra linea di passaggio. Cioè, mentre stiamo andando verso il fiume. Esatto. Praticamente abbiamo legato, ti abbiamo buttato in mezzo a loro. Però stato... abbiamo fatto uno short rest, che capace. Sì, sì, sono passati due giorni. Sono siete passati. Ah, no, siete siamo... full, rega, ah, siete in battito. Mi piacciono le priorità di scena. Eh beh, sì, se no... sì, diciamo che è un po' un problema... No, torno indietro e gli dico quello che ho visto. Va bene, vai, ditemi cosa ha fatto. Io direi di aggirarli, adesso mi sembrano un po' tanti. Così magari vediamo come riesce ad adattare la situazione a Vest, visto che si era preparato questo scontro e noi lo salteremo. Ah, sì, sì, noi cambiamo strada perché qua. Faccio fog cloud. In effetti, non voglio rovinare, però effettivamente avrebbe anche senso. Ah, no, sicuramente perché abbiamo strada. Magari hanno del tesoro anche loro. Sì, ho capito, ma. Non sapremo mai. Cioè, se proviamo... magari portare quei due bisonti. Se proviamo a sconfiggere alla carovana vi aggiungerebbe un bel bottino. Magari sono proprio in mezzo alla vostra strada, quindi perdereste un giorno a andare in giro. Ma abbiamo un orario. Però no, potete farlo se volete, ovviamente. Faccio fan cloud e gli aggiriamo. Sì. Ci sto. Cioè 10 troll. Mi sembrano un po' tanti. È tanto, cioè... Cosa vuole fare il capitano? Riflettiamo. Capitano, il mio capitano. Sì, adesso hai anche, adesso hai anche una nave. Decidi cosa vuoi. Tiriamo la nave. Sembra ottimo. Ma cioè, quindi loro sono tra noi e il fiume. Loro sono accampati. Solo c'è un sentiero che state facendo su cui vi guida Philip. Perché se noi. E loro sono in quella zona lì. Per aggirarli farete un giro che vi porterà uno o due giorni più là. Verso cui andiamo. Beh, oppure aspettiamo la mattina. Il fiume verso cui stiamo andando è navigabile. Sì, sì, no, ma potete aggirarli. Però perché? Prendete del tempo. No, oppure aspettiamo la mattina. Potremmo tornare un po' indietro. No, andare in linea retta verso il fiume. E poi, visto che abbiamo... Cioè, voi potete aggirarli. Perdete uno o due giorni di marcia. Ti sto spiegando come non perdere tempo. No, no, no, perdete comunque. Però aspetta, se noi andiamo dritti al fiume... Non è un problema, potete girarli. No, se noi andiamo dritti al fiume e utilizziamo... Oppure aspettiamo una quella piccola nave. E tre. E... Vabbè, no, aspetta, effettivamente... Siamo più veloci. Adesso guarda l'intensità di quinto livello. Vai, scegliete cosa fare. Cazzo, cosa dici? Vuoi fare un tandoro in mezzo alla campagna? Se noi arriviamo al fiume e poi... Adesso che sono lontano. Tutti giù, in teoria recuperiamo tempo. Scusa. Figata, cazzo. Beh, non si può dire nulla di male di una specie che ha raggiunto il grado di evoluzione necessaria per cuocere il bisonte. Quindi, secondo me, non sono stili. Dici veramente? Che cancro! Ma basterà presentarsi con qualche dono. Ah, una cosa, Laz, avevi notato dei sacchi dove... pieni di nani. No, però sembravano come se dentro ci fosse qualcosa che si muoveva. Figura poteva essere, cioè la silhouette poteva essere quella di esseri umani. Sai che non mi impiace di dire questa cosa. No, provo ad aggiungere cose alla trama. Sì, ce lo dico. Cioè, effettivamente... Se sono stati così stupidi da farsi catturare, dai, dillo. Non lo so, però. Cioè, se erano 4 o 5 ti dicevo, boh, ma andiamo, però sono 10, raga. 10. Non lo so. Stanno dormendo. No, cioè, giorno e sera e notte. Allora mi vorrei avvicinare anche io. Ascolta, scusa, se proviamo. Aspetta, prima che vada. Potremmo cogliere di sorpresa. Prima che vada via lui, infatti. Gli dico, ascolta, se noi provassimo a bersogliarne uno e l'altro là, il prete, facesse una delle sue spell out resurrezione su quella appena battuta in mezzo all'accampamento, visto che non può mai farlo. Aspettare, devo andare a vedere com'è la situazione. Vai, dai, da solo? Sì. Sì, vai, altrimenti non possiamo ucciderli nel sonno. Ma non dormiranno stanotte, sono cazzo, devo tirare stealth. È per quello che dice, aspetti a mattina, no? Aspetta, prima o poi dormire. Aspetta, vediamo se lo posso ritirare. Cosa? Prima o poi dormire. Cosa vuol dire? Perché ho fatto un tiro di merda. Allora. Non si può tirare finché non viene bene. Cosa non sta funziona succedendo? Così. Sì, aspetta. Come invece sì. Puoi. Basta, ah no, un tiro salvezza. Vai, quanto hai fatto? Cioè, tecnicamente è un tiro per salvarti la vita. Ma cosa avresti fatto? Non so. Scusa. Dici quanto hai fatto. Dimmi. Cosa avresti fatto? 11? Ma di cosa? Stealth. Furtività. Neanche pochissimo, dai. Ti avvicini al posto. Mi piacciono questi cambi di regia. Dall'inquadratura. Di tanto. Tanto non vedo nessuno, vedo solo io. Tu non puoi fare qualcosa di grosso lì in mezzo? Ti avvicini a loro, no, vedi la scena di prima. Stanno cuocendo i bisonti ormai. Almeno uno l'hanno messo a cuocere. E noti effettivamente questi sacchi. E ti sembra di vedere proprio dei piedi che escono da questi sacchi. Che sono sul lato dell'accampamento. Sembrano abbastanza ignorati in realtà dagli altri troll. L'unica cosa, a un certo punto, vedi tipo un troll che comincia a fare. Poi parlocchia in trollesco con l'altro. E si avvicinano verso di te. Questi due. Verso il punto dove ciao. Sei tu. Ciao vuol dire che li saluti. Scappo. Ti giri verso di loro e dici ciao. No. Ciao. Ciao. Magari non corri nella nostra direzione, però. Ovviamente corro nella vostra direzione. Ok, corri senza porti il problema, giusto? No, corro nascosto. Ok, mi fai allora un tiro di stealth. Magari meglio di prima. Adesso fatto sto gran 20 naturale. Grazie, guarderei lo schermo così. Stavo per tirarlo fuori. Sì? Per fortuna non è in diretta. 20 naturale che equivale a un... 25. Ok. Ci vanno molto vicino a beccarti, ma in qualche modo riesci a farla franca. Cioè, a un certo punto praticamente pensavi di essere fregato, ma cadi in una buca. Ma riesci. No, loro ti stanno fiutando. Ce n'è uno che non capisce bene dove sei, ma l'altro sembrava sentirti bene. Noi siamo abbastanza lontani, lo vediamo sta scena. Riesci più o meno a cavarti. A un certo punto vedete lui che esce tutto sudato dal. Questo è un troll. Uno scontro impossibile, dobbiamo andarcene. Sono troppo potenti. Ah, in realtà c'è un po' ha ragione, però è io ovviamente vero. Sono terrorizzato. Se è vero che ci sono anche esseri umani. Il capitano ha parlato. Andiamo, seguiamo il capitano. Dobbiamo uccidere dei troll. Il capitano ha detto sono troppo potente. Ah, è lui il capitano, ma quando? Dai. Ah, no, no, no, ma se decidi tu, io dico solo che io mi cago sotto. E tu però, il capitano, aspetta, aspetta, ho visto quindi dei sacchi con dei piedi. Scusa, ma non c'è il capo pattuglia, tu? Sì, e ti caghi addosso, ma che capo pattuglia sei? Allora, io lo scontro è troppo potente, tra l'altro ho visto che hanno fatto dei prigionieri, quindi secondo me non è il caso. Quanti prigionieri hai visto? Mi dai di nuovo il giocatore? Quanti ne ho visti? Sembravano essere almeno tre. Almeno due. Ma se ti metti almeno tre? Mezzo forse? Anzi no, no, era una scarpa vecchia. Non lo so. Andiamo ai voti. Questo cambia le cose. In effetti, ma utilizziamo i due che stavano seguendo lui, scambiare in giro con i due che stavano seguendo lui, sono ancora in giro, sono tornati. Aspetta, per chi se la fosse persa, ripeti Kat. Utilizziamo le nostre doti diplomatiche per scambiare i prigionieri con una parte del nostro tesoro. Col cazzo. La loro vita, le monete sono più importanti. Cosa te ne fai delle monete nel nulla? Mai dire mai, non saremo sempre nel nulla. Invece temo che lo saremo per un bel po'. Sono rientrati in accampamento. Perception, tutti voi. Mm, 23. 22. 14. 8. No, 9. Posso dire che sia una cosa in più? Filip? Beh, ha fatto un buon stealth. Lo considero come uno zero. No, io lo considero come un ottimo stealth, non so. Sirron e Eric, vi rendete conto che qualcosa sta per uscire dalla boscaglia? So, qualcosa di grosso. Mi nascondo. Prima o poi da fare. Vai, avete un'azione. Chi, scusa? Tu 21. E lui avete un'azione. Abbiamo un'azione. Vabbè, Philip, fai un tiro. Perception. Sì. Vabbè, mi nascondo di brutto. Credo sia 16, ma aspetta. 16, sì. Ok, anche tu sei conscio del fatto che si stia avvicinando qualcosa di grosso. Mi nascondo. Ma avete tutte le azioni. Salgo su un albero. Vai. 18. Salgo su un albero. Ok, fammi una prova di o destrezza o forza. Aspetta. Quanto sono alti gli alberi? Puoi scegliere un albero o quell'albero che vuoi. Allora va. No, magari più alto di un troll. Allora, con molta agilità e acrobaticità, salgo sull'albero facendo 14. Ok. Sì, no, io gliel'ho fatto fare perché lo fa veloce. La CD era 15, su. Ok, siete rimasti voi due lì che non vedete, vedete sti tre che non dicono un cazzo e si nascono, due si nascondono, uno sale su un albero senza dirvi nulla. E niente, appaiono due troll. Da... No, hai detto che la scena l'abbiamo vista. Che lui si nascondeva dai troll, l'abbiamo vista tutti. No. Ma, siamo la scena che voi eravate storia. Lì che parlocchiate. Voi tre sentite qualcosa e tipo lui si nasconde dalla parte. Io avevo capito che lui nascondi dall'altro e quello sale su un albero. Che non è mai. E loro due sono tipo. E tu tipo stanno parlando tipo sì perché dovremmo fare così, poi ma dove cazzo sono gli altri? Ce ne accorgiamo che se ne vanno. Ha fatto dei grand stealth, rega, non vi accorgete di un cazzo. Io avevo capito che lui che si bello è un'azione. Vabbè, lui non è arrivato a dirci ad a cagarsi addosso. Sì, ma sì, è un altro pezzo della storia. Però lui era inseguito. Sì, lo stavano cercando, quindi abbiamo capito che sta venendo qua. Vabbè, comunque non sono qualche sprovvista, semplicemente sono lì in mezzo. Era palese che arrivassero. L'avevamo capito tutti che stavano arrivando. No, per forza. Poteva. No, perché non l'ho detto. Magari infatti. Tornavano. Certo, poi lui non aveva mica detto neanche che l'avevano inseguito. Comunque. Grazie, capitano. Allora, direi che... Potete andare via. Direi che si fa un bel iniziativa. Vediamo. Cazzo. 17. Devo segnarmi l'iniziativa. 2. Aspetta. Eric 17. Arian mi ha detto 2. Quakert mi ha detto 13. 19. Sierra mi ha detto 19. E Philip mi ha detto. Un altro 14. Non c'è nessun 14. Ah, quello rispetto a quello di prima, va bene. E sta a Sirron. Quanto è che hai fatto? Ci sono due troll nella piccola, nel piccolo spiazzo dove eravate a parlare. Da dove siamo non vediamo l'accampamento. No. Cosa c'è, cosa no. non c'è. No, no, no. Riesco ad aggirare il fiume? Vuoi navigare? No, ad aggirare la stazione per avvicinarmi all'accampamento. Sì, puoi fare stealth per andare via da loro. Se noi siamo qui e lì ci sono i troll e là c'è l'accampamento, sì. Faccio tipo un giro largo per andare a vedere l'accampamento. Sì. Cioè se ne va dal combattimento questo qua. No, no, allora. Era in origine la divietipera, ma in questo modo se l'obiettivo è liberare i prigionieri. Sì, ce ne sono altri 8 là. Cazzo. Ma io non lo so. Quant'è? 13. Ok. Ma sì che lo sai, te l'ho detto che erano 10. Sì, va bene, nel senso, non so cosa stanno facendo. Non sprecherò questo bastone che ho appena avuto. Ah. Te lo dico. Prenderemo noi i suoi oggetti. Aspetta, non vado a combattere là, vado a vedere la situazione. Sì, ma non è senso. Eric, sta a te. Allora, comunque giù non userei il cuore perché loro due mi vedono dallo stealth. No. Quindi posso fare un bel assassinato con critico. Sì, da grande. Su uno. 19 più 30 forse. Fresco. Che toi? Si becca critico quindi, dai. E non ho abbastanza dadi, quindi farei per due. Aspetta, quanti te ne serve? Allora non sono sorpresi. Mi ha detto che io ero in stealth. Quindi se non mi vedono è una sorpresa. Gli avevo chiesto se mi vedeva. Sono due cose diverse. Però cioè, non l'hanno vedono la... hai vantaggio. No, se sono io su Assassinate, se sono io il primo del turno. Hai vantaggio. Se no non andrà attaccato. Il critico è se non sorpresi. Sanno che li attacco. No, se sono sorpresi. Se non sanno che lo c'è. E mi ha detto che è così. Però non sanno che c'è. Ma loro di fatto non sono sorpresi. La condizione sorpreso era la nostra durante il primo turno. No, aspetta. Loro stanno cercando lui tra i cespugli. Il fatto che lui gli ha fatto l'attacco dello stealth è comunque sorpresa. Beh, sì. Se non... Cioè tu stai cercando Filipe, a un certo punto ti arriva una freccia da là. La condizione sorpreso okay, può avvenire solo durante il primo turno di combattimento. Che è questo. Se il sì, no, in cui loro però giocano. Ora hanno fatto il primo turno. No, non c'è stato ancora. Non c'è stato. L'iniziativa sono davanti a tutti aware. Loro lo faranno. Lo faranno. Devono fare. Cioè noi no. Non ha un turno in più. Purtroppo non siamo colti alla sorpresa. Non siete colti. Nessuno è colto. Ha maggior ragione. Nessuno può essere assassinato. Secondo il regolamento purtroppo. Perché assassinato. Non rientra sul. No, ci sta. Dallo stealth. Però anche se loro non l'hanno visto lui. Non mi hanno visto. Però non l'hanno visto lui. Cioè non sono consapevoli della sorpresa. Dice quando sono sorpresi. La condizione sorpreso è solo nel primo turno di combattimento quando vieni colto di sorpresa. Insomma, mi stai dicendo che se voi vi foste avvicinati e li avessi attaccati, lui l'avrebbe avuto? Sì. Sì. Sì, certo, però. Lo volevo dire. No, beh, è un po' una cazzata questo qua, però. Però è normale, è vero. Vai, spara. Anche questo andrò a verificarla. Sì, beh. Allora, 4, 7, 9, 11, 13, è molto al limite, loro non sono sorpresi per quanto riguarda che ci sia qualcuno di ostile, sono sorpresi per quanto più loro si aspettano il combattimento. 24 danni? O qualcuno. Sì. E quindi sono in posizione di combattimento. Non sono lì che passeggiano belli come il sole. Sono in posizione di combattimento, diciamo così. Sono disingaggio mi allontano. Ha senso. Sì. Purtroppo ha senso. Però comunque lui ha agito prima di loro. Quindi sì. Sì, no, il vantaggio ok, però. La base che ti dà. È un po' una cazzata. Però. Fatto che era nascosto, non gli dava nulla. Vantaggio. Che ha già. Che aveva no, già. Il vantaggio l'avrei avuto in ogni caso anche se non fosse stato nascosto. Perché hai attaccato prima. Vabbè, sì, nascosto, però dal nascosto prima di loro. Il fatto di sorpresa se attacchi dallo stealth loro non mi vedono perché loro glielo ho chiesto quindi catta. Devono aver fatto la prova e non mi hanno visto. Classe armatura di K. Quello deve 20. Quello dovrebbe rientrare di beccano praticamente male. No perché lui ha uno svantaggio per quel mantello. Che se non ha mai ancora agito. Il mantello ce l'ha addosso. Quello che mi sdoppia finché non mi colpisco. Allora non lo sapevo. Ero mancato in quella però uno ti becca lo stesso. Ah, Peccato, però avrebbe fatto un ventello. E ti fa invece soltanto 9 danni. Magici. No, di... quindi sei. L'altro va su Giulio, che ha classe armatura. 18. Vantaggi, svantaggi. Allora, morso lo colpisce. Anche 18 mi hai detto? Ah, allora ti colpiscono due volte con le unghiacce. Una ti fanno 11 danni e l'altra ti fa... L'altra ti fa... 14 danni. Che annoia. 25 danni. E così. E dopo sta a Filippo. Dall'albero. Quanto sono in alto? Fai 5 metri? Ok, c'è una posizione loro comoda. Quanto saranno alti? Più o meno, un po' meno dei 5 metri. Sei un po' sopra di loro. Sei... C'è una posizione comoda, se no mi muovo. Per sparare? Sì. Fammi un... Com'è in inglese? No, va bene, sì, puoi sparare. No, sorpreso. E allora tiro una freccia su quello... Hanno armi? No. Il termine? Hanno delle paese. Unghie. Così è uguale? Peccato. Allora tiro una freccia su quello contro Giulio. No, guarda. Voglio vedere... Le regole del tuo master, permissivo. No, volevo vedere su internet, sui forum. Scusami, sono perso. Mi hai detto? Attacco con le rosse. Contro Giulio. No, non ha senso. Quello che è stato preso da Lanz o a caso su quello che puoi fare quando sei tu a fare una guata. Scusa, Giulio quanti ne ha? Uno Giulio e uno Catta. E allora noi quando una volta quando eravamo nella grotta che c'era in per colpirlo faccio adesso il mostro che ha preso il buio. E con un secondo attacco faccio invece solo 11. Ricordi che hai più 2 e all'altro che tu hai tutte dei bonus. Il è già diverso perché lì. Quanto hai fatto? Quando l'attaccante non ha scosso. Ah, secondo? Sorpreso, no, non prendo. Perché ti allora, con il primo gli faccio anche quello per buttare a terra. Come hai fatto a fare 11? 2. Ho fatto 3 più 8, 11. Ok. Se è large lo puoi fare, giusto? Vai. Sì. Mostramelo. Allora sono 2 di 8 e quindi sono 8, ok, se cerchiamo una roba della 10, 18 è molto restrittivo. 22 effettivamente, cioè vuol dire che sei tu danni, 4. E deve fare un tiro salvezza difficoltà 14 mi pare sulla forza. Assassin's Creed, no. Passa. Aspetta, no. Sì, un po' sulla forza. Passa. Non considerare sorpreso, okay. Questo è proprio al limite. Basta? Rimani lì? Sì. Ok. Sì, cioè, perché allora uno potrebbe... Quaker. Creatura immonde. Lasciate libere le vostre povere... Per poveri sto per dire cristiane, ma non ci sono cristiani. Peloriani. Pelose. No, ecco. Devo inventare un nome per la mia religione. Gangleresimo. E no, i poveri, popolari. Vedi? Padre, c'è scritto. Padre di famiglia. È il Dungeon Master che lo determina. Praticamente, no, se, non, se nessuno... Variante, stai guardando. No. Se nessuno fa un tiro di stealth eccetera, sono tutti notati. Ok. D'altra parte, bisogna comparare da parte del Dungeon Master il tiro di stealth sulla passive wisdom. Ok, ma guarda la condizione sorpreso che c'è. È qua, surprise, è qua. No, loro hanno visto gli altri due. È la sorpresa. Sì, ma non hanno visto me. È la condizione del sorpreso, è in fondo nell'appendice delle condizioni. No, da quello che dice l'Asqua ci starebbe. Vai a vedere il surprise, che è una condizione al fondo fine. Del glossario. Perché lì è, okay, lì okay. È per identificare il ledger, fa finire la sorpresa. Che lì intende il turno di sorpresa come si va a creare. Troppo lo conosciamo bene perché Venezia ci ha provato in tutti i modi. Io li ho fatti sempre però. Ero troppo buono. Ma sì, perché ci stava in realtà. perché ci stava. Vedi però che oggi ti ha fatto da co-master, non puoi dire di no. È vero, come anche l'altra volta. Ah, vi devo dare i biscottini. Perché se cosa era questa bruttissima? Vi devo dare i biscottini, c'è cioè una roba. Dico al mio cane di distrarlo in modo da. Ma cazzo, c'è ancora il cane, cazzo, hai avuto mille robe, ancora il cane. Il cane gli si rotte alla testa, sbava e non c'è. Vai, che fai il cane ti dà vantaggio, vai. Primo attacco. Non c'è un appendizio? 24. E fuori, fuori, fuori. Sì, non c'è un appendizio nelle condizioni, questa cosa. Non c'è. Sei incapacitato. Vai a guardarmi. Non c'è questo. E alla pagina 3290. Paralizzato, pietrificato, avvelenato, prono. Surprise. Non c'è, ragione. Non c'è. Nell'appendici allora, non c'è sorpreso, dire che io l'avevo. Forse ha ragione. Qua c'è l'altro pezzo. Forse ha ragione lui, avevo ragione io, Kat. Stronzo. È qua. Surprise. Mi ha fatto perdere un attacco. 189. Quella che dicevi tu. Però la. Cioè, ha ragione, c'è anche Kat. Effettivamente il dubbio c'è. La condizione sorpreso. Non è specificato nell'appendizione. Sì, è specificata. È specificata nell'altro paragrafo, c'è scritto chiaramente. Se uno fa lo stealth, fa il check. Forse dovrei deciderlo io? Secondo me a questo punto. Ah, e in quanto grandissimo amico dei ladri. Pagina? Salla? 189. 189. E quella là. E allora ha ragione lui, dai. Allora mi dice. È una puttanata, sono quello usare. Surprise. Neither side tries to lo usi solo una volta. Cioè, ti avessero già visto e stessero cercando te, è un conto. Certo. Stanno cercando un'altra persona, effettivamente, cazzo. Cioè, non oltretutto, non è che se io in mezzo al combattimento mi rinascondo lo posso fare. No, è solo all'inizio. Oltretutto, ho vinto l'inizio di questo. È un po' ai limiti. First surprise, you can't move or take an action on your first turn of the combat. Sì, che non è questa la situazione, in effetti. Sì, però quello è un altro pezzo. La group can be surprised even if the others members aren't. No, vedi, però è deve essere però dice anche qualunque non è sorpreso perché ha visto giù. Però dice anche no, l'incontro tecnicamente no, perché a livello di iniziativa poteva fottermi Sheo, ma Sheo è andato via. Io sono stato il primo del turno con iniziativa, quindi ero il primo. È un po' ai limiti. Secondo me ci potrebbe stare che decidi tu... No, perché, allora, se avesse attaccato Sheo, che era prima di me, ma lui è andato via. Secondo me, non avendolo visto all'inizio del turno, ci sta. No, se avesse attaccato lui, era iniziato. Secondo me funzionava così. Secondo me funzionava per il turno in cui tu ti sei nascosto. Se l'avesse attaccato... In teoria sì. Allora sarebbe stato sorpreso. Se invece tu ti sei nascosto, quindi lui ha tirato l'iniziativa, quindi. Ma di iniziativa però ero io prima. Se in teoria se io li avessi attaccati, no. Ma lui è andato via, quindi essendo io il primo del turno doveva entrare. Ma il primo del turno in cui lui faceva parte del turno. Sì, ma lui ha fatto il check, c'è scritto. Sì, l'ho interpretato in un modo diverso, però che non è esattamente quello delle regole. Non mi ha visto. Però nel regolamento ti giuro che non è scritto così. Cioè, no, allora ha ragione Sala, tu hai ragione, però è anche vero che io ho interpretato la regola in un modo diverso all'inizio, cioè vi ho fatto fare un'azione come se voi tipo notaste il pericolo se poco prima, se lui avesse attaccato avrebbe fatto solo, ma è che non avete avuto un turno effettivamente, avete avuto solo un'azione da fare, cioè io vi ho detto potete fare un'azione, l'azione può essere attacco comunque, sì, però non lo vedeva, quindi come faceva attaccare, poteva aspettare e attaccare, dici tu, sì, è vero, però è anche vero che loro arrivano lì e hanno fatto il compare e basta. Se non passava, essendo io il primo del turno, se io non l'ho fatto, ero io. Non è che sei il primo del turno, è che hai un da quel turno momento loro hanno tirato l'iniziativa, quindi sono in combattimento. Quello, così più non c'è scritto così, però. No, è così. Se tu li prendi di sorpresa, agisci tu, poi finisci un turno, inizi il secondo turno. Quindi agisci due volte. Cioè, ci saremmo dovuti nascondere. Se lui dice che hai sorpresa, che può essere. Perché funzionasse per me non è così. Però cioè, no, è così. Tu avrebbe dando due turni. Quindi avrebbe però per me non è così. Quindi no, avrebbe funzionato. Nel momento in cui uno attacca, poi parte il turno, se l'altro è più iniziativa di me. Se l'altro è più iniziativa di te, sì. Sì, però cioè, dovrebbe entrare tu, quindi tu allora, possiamo così. Allora avremmo avuto noi. Loro allora, secondo me non erano infatti. Fermi tutti. Si nasconde lui. Fermi tutti. Ah, vabbè, ma ormai è andato. Fermi tutti. Ormai è andato, cioè questo turno ormai l'abbiamo tirato tutto. No, non è andato per perché basta volta, che però tiri i restanti di 6. No, vabbè. Allora, fermo, tu dici di tirare. Devo fare il secondo attacco. Sì, ferma, facciamo tirare prima i danni a lui. No, no, ma facciamo dalla prossima e no, scelgo, decidiamo come. Sono io il master e scelgo io. Allora, la regola è quella lì che abbiamo letto. Però siccome io gli ho fatto fare una roba un po' diversa dal regolamento, ci sta secondo me che in questo caso lui sia sorpreso. Perché non ti vede. Perché se tu ci avessi fatto fare anziché un'azione un turno in cui potevamo così fare come in realtà il tuo primo tiro Salla non te l'ho detto, ma avevi vantaggio turno, in realtà non si sì. ma ti sarei per capirci era il momento in cui loro erano sorpresi, quindi ma tu avessimo sei andato a fanculo. No, sì, però se avessimo fatto quel turno pieno tira i danni attaccato, allora avrebbe fatto tutti questi danni. Tira danni in più, ma tieni presente che effettivamente normalmente la situazione è un'altra. Esatto, spiegami esattamente com'è. Allora la situazione normalmente è questa qua, effettivamente, cioè se tu c'è un certo punto in cui c'è chi è sorpreso o chi è no, tipo per esempio effettivamente se voi li avessi presi sul piatto loro sarebbero stati sorpresi e quindi avreste avuto un turno tutti mettendo che riuscivate a fare stealth giusto in cui sparavate perché palesemente loro non si aspettavano, esatto, e avevate tutte quelle robe lì e poi iniziava il turno, capito? Cioè avevate un turno in cui agivate solo voi, che è il turno, il secondo turno di sorpresa, era così il anche nella, era così la anche quarto, la volta c'era una azione solo proprio turno di sorpresa, adesso è proprio il primo turno, è il primo turno che si partecipa in cui agisce solo chi non è sorpreso. Esatto. Però mi sembra strano il fatto dello stealth qui è molto al limite in effetti perché allora nascondersi o no cosa gli cambia? Esatto. Effettivamente non cambierebbe nulla a lui cosa cambia? Perché io il fatto di assassinare avrei comunque avuto vantaggio. Allora, il problema è questo, le meccaniche del gioco non gli cambiava nulla dal punto di vista di dungeon, gli cambiava perché lui si è nascosto, cioè nel senso funziona, il personaggio si nasconde. No, sì, no, ma non certo ha, sai, a livello pratico non aveva utilità. Ho capito, chi se ne frega, cioè interpretativo, ti nascondi perché cioè perché loro in effetti non sono sorpresi nel senso che sono pronti a combattere in quel senso lì. Sì, ma non con me. Però è anche vero, non mi ha visto. Ma al tempo stesso si aspettano fili, stanno cercando fili. È quello. No, che beh, non sanno che stanno cercando qualcosa. Sì, ma non sanno che ci sono. C'è una parte fatto, di no? Questa regola sì, che adesso è così. E quello è il vantaggio. Può essere interpretato ed il master che deve c'è una parte di questa regola che dice una cosa che adesso volevo leggere. 186 189 cos'è? Allora. Cos'è sta roba? Oh mio Dio, togli qualunque cosa sia. Non è 186 189 non colgo la citazione. Aiutami. Però dice if you're surprised you can't move or take an action on your first turn of the combat. Però dice anche any character or master that doesn't notice a threat is surprised at the start of the encounter. Capito cosa vuoi dire? Tutto sta nel fatto se questo è l'inizio dell'incontro sì. È iniziato. Ma Assassinate determina proprio sorpresa? Sì, dice qualcosa deve essere sorpresa. Regalo, va bene. Volta. No, basta, non lo fai. Lo avresti, ho capito dovuto, il significato. Però allora se posso, non per criticare, però allora quando ci hai detto avete un'azione, in realtà avevamo un turno. Sì. E allora lì abbiamo non, tutto. A livello pratico, rispetto a quello che hai fatto, non cambiava niente. E invece sì. Avresti nascosto lo stesso. E poi avrebbe attaccato, facendolo assassinare, se avesse avuto un turno completo. Ma di che non c'era nessuno lì, avrebbe detto, avrebbe dovuto dire sì. Preparo l'azione. Avrebbe dovuto dire preparo l'azione. Bravo, però non avrebbe mai detto l'altro. Okay. Niente, dai. Però, no, però era per correggere. Perché, allora, aspetta, col senno di poi l'avrei detto. No, aspetta, per correggere eventuali cose future. In grazie. Quel caso, quello che ci hai fatto fare un'azione sarebbe stato il famoso primo turno. Sì, però va detto una cosa: che voi sentite che sta arrivando una minaccia. No. Non ho detto lo avrebbe fatto sicuramente. Sto solo dicendo quello mettevi sarebbe stato. Biscotti. Giusto per capire per il futuro, sarebbe stato il famoso primo turno in cui loro erano sorpresi. dal nostro eventuale muoverci. Sì, questo dicevo. Sì, normalmente è così. Normalmente è così, siccome però a me piacciono le situazioni un po' strane. No, solo per capire. Questa è una situazione un po' al limite, nel senso che sono loro che stanno arrivando su di voi. Quindi, il momento in cui. E voi riuscite a evitare la sorpresa. Esatto. Ok. No. Allora, quello va. Quindi, bene. In realtà, quello che io avrei dovuto fare però è una cosa diversa. A livello di regolamento, la cosa giusta sarebbe stata un'altra. Sarebbe stata un'altra a livello tecnico. Io avrei dovuto far fare l'iniziativa a voi tre e ai troll e loro erano sorpresi. Questa era la cosa giusta, sì, a livello tecnico. È vero. E io l'ho fatto una roba un po' diversa, no, perché, bene, mi piaceva così. Per capire. Quindi per, ci sta che tu non abbia assassinate e voi avete avuto un'azione. No, l'ho interpretato in un modo diverso, bene, che non è quello giusto, era per capire, però l'ho interpretato. Basta, era solo per capire. E ora sta a carta col secondo attacco. No, hai avuto anche il tempo per pensare. 18, sì. Ah. Prego. Boh. Altri 12 danni. Fine? Fine. Elia. Faccio il buono. Ne ha parlato di mia cugina, da. La Ginny? No. Ah. Faccio il buono, davvero? Niente. Ignoro. Iaccio, so, è un'ora che mandi gli incantesimi. Adesso ho paura che fai una roba e in 3 secondi finisce il tutto, tipo. Ma infatti, raga, faccio un attacco e la foresta non esiste più. Boom. Allora, 7 più 9 16. Prendo con 16. Ok. Mi dai un attimo. Vabbè, dopo ne parliamo alla fine, intero. Allora solo. Ho trovato un'altra cosa. Uno. No, però è così. No, io boh. Due. Quale del master? Giocatore? Perché c'è scritto. Tre. Vabbè, non parliamo dopo, andiamo avanti. Cioè, devi guardare Assassin's, dice surprise. C'è scritto. 4. Il libro dice che a pagina 15 le creature che non sono avvertite dell'approccio dell'avversario sono considerate o presenza, sono comunque sorprese. 4, 5. È che non esiste la condizione sorpreso, quindi non ci toglie il dubbio. Mm-hmm. Hai capito? Bisogna vedere se è esatto, se è una cosa diversa. Se fa riferimento a sorpresa, quella lì, o se fa riferimento a un'altra roba. Perché la condizione sorpreso non esiste. Esatto. Qui. Sì, ma di questo mi fido il giusto. Mi fido no, il è pagina 15, c'è scritto anche qua. Tears of play. È solo l'estrapolazione. Ma sono una roba del giù di testa, sto qua. Mangio. Ecco, buono. Ma sta arrivo, mi sono i danni, ma cosa mi stai dicendo? I danni? Sto continuando a uscire i danni. Mi servono 7 di 10. No, i miei fanno schifo, aspettare. Tu è meglio. Quanti? Ma, scusa, come parli a 15? Tipo scenario 1. No, il combat è iniziato. Secondo, terzo, quarto, il lato non, va non per mi primo. Sembra che c'entra niente qua. No, sto lanciando un incantesimo di primo livello. Pagina 15 c'è autoplay. Ah, ok. Boh. Sto a cosa del surprise. Ma cosa stai facendo? Lo sfigo. Lo tocco e faccio un flinch play. Vabbè, comunque. Fa riferimento a un'altra pagina, però, perché non è questa. Vabbè. Comunque andiamo avanti passando dopo. Tranquillo. Sicuro che non stia Dungeon Master? Forse la pagina del TGS, non la pagina del libro. Può essere. Può essere. Vabbè. Andiamo avanti, andiamo avanti. Però il PDF è prima. Cioè, la versione prima? La beta? È la stessa, però. Giulio, i danni? 20 solo, 24. La prima pagina. Ecco, l'hai tirato 7 di 10. Allora, ho fatto 3-1. Non sto a mettere. Oh. Non sto a mettere. No, non sto a mettere. Quanti danni hai fatto? 24. Sì, rega, cosa vi spaventa? Con 7 di 10, però. Stai facendo uno scontro. Stavate facendo uno scontro. Ha tirato 3-1. Da solo potrebbe. Per fortuna che Shio se n'è andato. Sta alzando la difficoltà dei combattimenti. No, ma poi ho fatto un sacco di danni. Appunto, cioè, state facendo un combattimentino che. Cioè. E poi mi ha tolto i miei danni dal critico. Giustamente. Per aggiungere un po' di giustamente. No, giustamente. No. Ci stava di metterteli dal mio punto di vista, però in realtà è corretto. No, no. Come regolamento interpretare l'altro. Va bene, sta a Sirron. Cosa vedo? Continui a avvicinarti verso il. Sì, penso di essere arrivato. Beh, no, 6 secondi, un turno, ci metti poco. Era molto lontano. Non è molto lontano, ma un po' ci vuole. Vabbè, mi avvicino e cosa vedo? Continui a avvicinare. In questi 6 secondi ci arrivo. No. 24 con 7 di 10. Continua ad avvicinarti. Continua ad avvicinarti. Deve fare stealth, no? No, no, no, quello lì va bene. Era 18. Perfetto. E va bene, Sirron prosegue la sua avanzata, sta Eric. Dai, così intanto voi uccidete questi, poi arrivate da me e mi aiutate. Mi sono perso un attimo, no? No, Quakeheart e Arian sono sui... E attacco quello che ho attaccato prima, a sto però, punto. Se volete posso spiegare, cioè, mi riavvicino. Mi sono immaginato che i troll stiano venendo in questa direzione. Che attacchi? Non solo due, ma quelli prima. Quello, nel frattempo, voi siete quello, diversivo, intanto io sono uno su uno e uno sull'altro. Diventato attacco quello che ho attaccato prima. Va bene. Se funziona, se non funziona sarò morto. 18. Preso. Assassine, quindi. Sì. 7, 10, 12, 18. No, in realtà quello che facevo 23, 30. Era quello che io mi nascondevo e avevo sempre vantaggio. In realtà è una cosa un po' diversa. Secondo me crittavi pure. In realtà quella cosa lì, secondo me la facevamo è comunque sempre il primo turno e basta. Sì, le prime volte le abbiamo scherzato, ma quella sempre il primo turno. Se ti nascondi non hai vantaggio. Quanti danni, scusami? 30. Tra un cazzo. Che gli altri poi? Non ti vedo. E poi rimango lì. Non mi trovo la reazione. Però nel momento in cui tu attacchi rivedi la tua posizione. Quindi è inutile nasconderti, effettivamente. Sì, cioè, è quello assurdo, che ti sto dicendo. Ma non, non è così, cioè, almeno all'inizio del turno non è così. Beh, che di almeno il vantaggio a colpire avrebbe senso. Ah, ho svantaggio non sempre. Non vede la posizione da parte del colpo, quindi non può. Quindi no, no, ma quello si può anche stare, perché una volta che sei comunque in combat. Ok. Raga, ma basta aumentarvi, è un buff immenso. Ma che cazzo dici? Una volta a combattimento. Hai sempre furtivo nella 3.5 non è così. No, nella 3.5 era molto meglio, non andiamo a parlare di quella roba lì. Nella 3.5 fai sempre furtivo. Fai sempre furtivo con tutti gli attacchi. Cioè, meglio se sei nelle posizioni con tutti gli attacchi. No, no, basta che ti nascondi. Con tutti gli attacchi. Nella 3.5 c'era qualcuno che vomitava danni. Appunto. Lasciamo stare la 3.5 perché era molto meglio. Fai sempre furtivo, bastava se l'altro era immune ai furtivi. 8 danni col morso. No, bastava avere i guanti. E facevi furtivi anche su una morti, melme, cugnetta, poi ti prende una delle due unghiate. Sui costrutti. 10 danni. 8 e 10 danni a Giulio. Il fiancheggiamento o nasconderti lo facevi. Era molto meglio prima per il ladro. Esatto, Sceo. Adesso invece lo fai in automatico. Sì, ma ne fai uno. Se fai due attacchi non fai col secondo attacco. È una cazzata comunque. Scusa, conti i danni che perdi. Allora, tiro una freccia a quello solito. Però mi fa strano che nasconderti non ti dia nessun tipo di lontano. Quello sì, che non ti prendi gli attacchi. Faccio. No, vabbè, cioè, al di là dell'altro intervento. Una merda, 13. Di regole strane, però non prendo vantaggio. Tiro un'altra freccia, stavolta faccio di 27. Cioè, non ho uno svantaggio per colpirti o neanche. Su chi stai tirando? Devono tirare per cercare. Già se ti vedono, ti sono tutte e due già feriti. Sul mio, che l'ho ferito di più. Ok, quindi su quello di Katta. Vabbè, sì, ha senso, in realtà non ti vedo. No, quello di Giulio, scusa. Quello di Giulio o quello di Katta? Quello di Giulio? Quello di Giulio, sì, ho detto il solito all'inizio. Vai. Allora faccio di nuovo, provo a buttarlo a terra. Sì. Allora i danni sono sempre gli stessi, 27. Danni 27 e buttato a terra. Boh, il potere! Vedi che non avete bisogno di me? Non è che quello l'avevo già capito. Freccia di Dio! Quakeheart! Non respira ancora quello che è andato a terra? Sì, sì, ma è da quello su Giulio però. È a terra, non perché è svenuto, è a terra perché è caduto. Allora lo aiuta a rialzarsi. Però... è giusto. Non ho ancora il modo di fare danni da fuoco, quindi lascerò il piacere al nostro collega qui presente e mi continuerò a concentrare sul nostro amico che ho di corpo a corpo. Chiedo al mio cagnolino se mi dà una mano, una zampa. Che cosa scala? Abbastanza, 29. Cioè ti dà vantaggio, sì, preso? Il primo colpo. Ah. 13 danni. Il secondo attacco Fumble. Ok. Stai attaccando l'altro. Quello che è il corpo a corpo. Sta a... fatto? Arian. Il tuo è davanti e è caduto. Ok. Mi allontano. Faccio arma spirituale. Sì. Questa non c'è corpo. Anzi, no, c'è un allontano. Faccio arma spirituale. Un attacco con l'arma spirituale. Su? Quello caduto? Quello che è caduto. Sì. Ho qualche bonus su questa carta. Basta. È che potresti avere svantaggi. Cosa? Perché tu stai usando un range, mi sa che. No. Arma spirituale. Cioè, no, non però che tipo di attacco è? Non è range. No. Allora è vantaggio. No, no, è una botta di. Se, vai, se è un milis per l'attacco, hai vantaggio. Dai, sì, ma lui è per terra. Dai, ammazzalo! È particolare perché tu di fatto è un attacco che fai anche a distanza, però il tiro dice che è lì, quindi hai vantaggio. Vai, comaster. Però non è quindi. 16 più 9, 25. Danni? No. Dai, per colpire. Per colpire. Sì. Il danno è un misero di 8. Più saggio. Più saggezza. No, comunque non vorrei sbagliare, ma nella quinta mi pare che il troll sia l'abbiano nerfato. Sono 9 danni di forza. Sono 9 danni di forza e quello attacco col martello. Cioè o sei attaccato, altrimenti sei un po' piantato nel vantaggio. Ventello? Ventello, sì. Non c'è di che a buttare a terra. E quindi 2 di 10. Finalmente userò il potere del martello. Ah, il martello. Quindi sono 2 di 10 di tuo di fulmine. Quanto? Più un altro di 10 più una forza. Quanto? Ha fatto critico. Mm. Ah no, aspetta, critico quindi raddoppio di 10. Quindi 2, 4 di 10. Beh, oddio. Oh, 21 più 2, 23. 23. Prima quant'era? 23, però un 7 di 10. 24, era 24. 24. 7 di 10 mi ricordo. Vabbè, è stato 3-1. Sì. Ok, tu Giulio hai finito il turno? Sì. Ora vi chiedo un'interpretazione. Dice che il troll muore solo se inizia il suo turno con 0 punti e non rigenera. Quindi ci deve essere la. Non rigenerare, deve. Deve esserci, solo, deve esserci la condizione per cui non rigenera, siete esatto. D'accordo? E qual è? Sì. Va bene. Ah, è città, c'è un attimo, ma c'è un po'. Va bene, mi piace. E Giulio ha fatto e sta a. Sirron. Sirron. Ma è vero che già incontrato? No. E allora, arrivo alla somiglianza con la cioè, pelle del comincio libro. A vederlo. No, continui avvicinati. Però noti lontano da te che c'era un altro qualcosa di grosso che andava nella direzione degli altri. E sta a Eric. È ancora vivo quindi quello? Quello su Katta sì, l'altro è a terra morto. Una a terra morto e l'altro vivo in piedi? Sì. Sì. Ok. Attacco. 14 viene. Non preso. Sì. Disingaggi e si allontani? Rimanili? No. Va bene. Ascolti. Sì. Allora. Vediamo un po'. Allora, il troll morto non è morto. Torna vivo. Chi è che può fare danni da fuoco? Nessuno. Se sì, sì, però in un'area di 40 piedi e con un incantesimo di quinto che fa 4 di 6, di 4 di 6. È il momento. Sì, per due troll, cioè no. È il momento. Si alza, prende un attacco d'opportunità. No. No, non prendo un cazzo. Allora si alza. Come colpisce giù metà del suo movimento. Ah, non c'è più quella cosa. E prova a mangiare Giulio. Lo colpisce con un morso. E gli fa 10 danni. E tu puoi girare intorno a uno. Poi prova a graffiarlo. Lo becca solo una volta. E gli fa 10 danni. 10. L'altro vuole attaccare Katta. Con svantaggio. Peccato, ora era un ventello. Ma tu hai 20.000. 20.000, non prende neanche con l'altro. E non prende neanche con l'altro. Però ne esce un altro fuori dal bosco. È un imboscato. Un piccolo. Che a sorpresa. Assassinate! No! Classe armatura di Lasso. 15. Non ti prende col morso. Ma l'altro arriva e attacca me. Yes, ma ti prende con le altre robe. Il primo di mezzi. Allora, il primo sono 13. Di mezzo. Di mezzi. E il secondo sono 14. Segna sempre giù l'uno, sì. Quindi 13 che hai dimezzato. 6. 20. E ora vabbè, il fuoco ve l'avete tenuto a guardare, immagino. Non vi ho fatto tirare. Ora mi fate un tiro tutti. Una somiglianza con la pelle del libro. Zitti. Facciamo un tiro, fate tutti un tiro su intelligenza. 20. 10. 18 più 2. Te non te ne frega. Ma me lo dicono loro. Ah no, sono da solo. 20. 10. 18. Philip e Eric, chiaramente qua saranno fuoco e probabilmente l'acido, dai. Ci vuole. Io non glielo dico. Io cosa capisco con 3? L'altro si arrampica sopra. Beh, io con 3 pensi di essere un troll o... Tu non ti poni il problema, un troll non si può regenerare. Nessuno si può regenerare. Nessuno si può regenerare. Io c'era mica con la terra bruciata. Sì, che c'è. Sì, ma c'ero, era una delle poche volte in cui c'ero. Allora, non sta a te però, Philip, sfortunatamente. Non sta a te, infatti sta a te. Comunque con l'idra c'ero. Allora, cosa facevi? Tiro... Stiamo chiedendo tutto a te, stavo. Quello è nuovo. Vabbè. Lavato con perlato. Allora, con una freccia faccio 26. Non lo fanno gli altri, no? E con l'altra freccia faccio 19. Perché ti se ne sta salvando di memoria. Con l'altra freccia faccio 19. Prendi con entrambi. Stai colpendo, perdonami? Con l'ultimo arrivo. Quello contro l'altro. Ah, ok. E tu fai furtivo, sei vantaggio. Io? Sì. No, io faccio furtivo a prescindere. Se sono fiancheggiamento. Fiancheggiamento. Mischia. Ma sei contro uno. Esatto. E sono... Vabbè, io sto attaccando quello di Katta, cosa me ne frega. Ah, ok. Allora, va bene. Allora tiro di nuovo per buttarlo a terra. Se no, io ho un vantaggio. Danni, perdonami. Se a terra abbiamo vantaggio. Ma non c'è il... Danni, lo so, ma se a terra deve fare il tiro salvezza. Danni, vantaggio danni. Danni sono... Di fatto è quando... Sono 16 più 10, 26... più 20, 46 troll. Di tutti e due attacchi, spero. Però in teoria 54 danni un attacco, manga zero, qualcun altro lo attacca. C'è la cosa dei tre. Hai capito quanti danni faccio? Esattamente cosa hai appena fatto? 54, ho tirato due frecce. Hai lanciato una bomba nucleare. Quanto devo fare per non cadere? Quanto devo fare? 14 cade. La cosa dei 14. No, questo non è 14, sai, aspetta. Filippo con due frecce ha 54 danni. E 5, 17 mi sa. 17. Ma hai fatto cose particolari, perché sono un po' tanti quei danni. Scusa, sono... Perché tu non ci sei mai, lo fa sempre la guerriera. Non abbiamo mai visto la sua scheda, chissà cosa c'è. Quakert. Wow. E anche quando io l'ho vista una volta ed era non era una scheda, era tipo una specie di coso grande così, un pezzo di cartone. Esatto, con tipo delle scritte laterali, tipo delle bisce che si rincorrevano, e quindi ho detto boh, vabbè, dai. Quindi è lontano da casa, la saudaci, facciamoli fare quello che gli pare. Scusami, 8 più 4 12. più 5 quanto fa? Non 54. Ma 17. No, 17. Ah, 17. La classe armatura, la classe difficoltà. Sì, sì, va bene, va bene. No, no, erano i danni che ci sorprendevano. Ah, i danni, i danni faccio più 10 a ogni danno. A ogni tiro poderoso. Ok, e sono 20. Ma quante volte la puoi usare sta roba però? Quando vuole, fa gli attacchi. È un talento. Però prende un meno 5 a colpire. Prendo meno 5 a colpire, ma io ho un più 13 a colpire, cazzo. Ah, va bene, ecco perché fai ogni tanto hai fatto dei tiri bassi. Poi mi hai dato due oggetti magici che ognuno fa più 2 danni. Non mi vedi? Quindi sono già più 8. Poi è lo stile di combattimento che fa 2 danni in più. Va bene, sì, ma infatti nessuno mette in dubbio quelle biscioline che ci sono. 5 in destrezza. Va bene, va bene, va bene. Quindi è prono, non ho capito. Sì, è prono. Quaker, state. Ma non è quello che sta su di te, però è quello che sta su Eric. Questo. E non stiamo uccidendo lo stesso io. Puoi andare su lui se preferisci. Ma qual è quello che è arrivato un altro? Quello messo peggio è quello su Giulio. Allora vado a salvare Giulio. Sono tutti di fianco a te, puoi prenderli tutti se vuoi. Certo. Il mio cagnolo è una kill, come cercare una kill tutti qua, sembrava. No, vado a salvare il mio povero compagno. Comunque non capisco perché siete sorpresi se la mia scheda di un min-maxer, cioè. Il mio cane mi dà una mano. Per fortuna. 14. Non basta. Sei detto il mio cane mi dà una mano. adesso spero di sì. Ha fatto due tre. Hai fatto critico, hai ragione. Crittazzo? L'hai chiamato. Vai. Su, quello di Giulio, vai. Quindi mi brucerò uno slot. Ah, è vero, nessuno di voi però ha notato, avete sentito il grido di Philip, bruciateli, bruciateli. Non abbiamo la materia per... Chi è? Vabbè, se lui decide di non dirlo, tecnicamente... L'ha detto. Io ah no, ok, l'hai detto. Okay, bruciateli, acidateli. Tecnicamente. Ho usato la parola tecnicamente, ti devo dei soldi. Quindi sono uno della spada, ah no scusa, due della spada, mi servono degli otto. Non so, raga, volete i miei dadi? Tanto io non li uso. Di base. No, io ho detto volete i miei dadi, tanto non li uso. Tutta gente che. Raga, mi mancano dei dadi, raga. Ah, io cosa sto facendo? Sto andando a vedere com'è l'accampamento. Due della spada, due della cosa e due di primo livello, no? Ne tiri solo 8, no 6. Lo 6, vabbè. Moderatamente. Io tiro un dado alla volta, sono ancora vecchia scuola. 24 e 7. Mi regali un talento inesistente che mi fa tirare due dadi ai danni, così tu. Giusto per l'effetto di tirare più danni. Ma c'è, mi sa, no? C'è uno che puoi scegliere. 38 danni magici. Cade a terra morto. Che spreco la 10 vita. Sì. Vabbè, ma appunto il 20 dato dal dio cane. Non santificare per me. Ariel. Una vomità, mi allontano, uso una carica del bastone. Cosa? E curo il drone. E lo faccio resuscitare. Vabbè, mi resusciti domani. Resuscitami. Mi resusciterai domani. Ma, rispetto a quello che avete imparato nel labirinto. Non avete capito una cosa? Dobbiamo morire. Che i troll sanno tutto. Muoiono e ritornano. No, non è vero, non muoiono veramente. In teoria. Questo episodio di ieri, no? E con l'arma spirituale, in teoria, farei. Un colpo di grazia sul troll. Cioè, lo attaccherei. Definisci colpo di grazia? Allora. Un normale giocatore deve fare i tiri salvezza. Di risalvezza le creature non ce l'hanno. Mm-hmm. In teoria se io attacco qualcuno. No, come lo fai tecnicamente? Gli tagli la testa. L'arma attacca. Se è un martello gli spappolerà la testa, non gli so. Spappola. No, ma in genere la testa. Ma no, vabbè, ci sta, Giulio lo spappolato. Col colpo di grazia in teoria non dovrebbe. Cioè, nel senso. Giulio gli spappola la testa. Mi piace. È che. Cioè, va un po' in conflitto il regolamento, però in teoria col colpo di grazia tu lo uccidi. Fine, cioè non. Giulio gli spappola la testa, giusto? E poi cos'altro fai? Niente, ho indietreggiato, mi sono curato e. Va bene. Fine del mio... Sta a. Sirron, arrivi in visione dell'accampamento. Ovviamente sto a distanza, non è che entro. Sì, beh, sei. Praticamente. praticamente, praticamente è un po' incassato e praticamente niente, c'è il ci sono i vari troll lì che stanno cuocendo sto bisonte e hanno preso uno dei sacchi con quello che sembrerebbe esserci una persona. No, no, sì, e l'hanno tirato fuori, questo è Penso sia un hobbit, io non gioco la prossima. No, è una persona, no, è un altro, sembra sembra vestito come uno dei coloni, eccetera, non lo riconosci. Quanti però sono i troll? Quanti ne vedi? I troll sono 7. Mi confermo. E lo stanno prendendo e lo stanno portando verso il centro dell'accampamento. Dove c'è il fuoco. Esatto. E questo era Sirron. Fai qualcosa? E, assolutamente no. Va bene, penso. Sta a Eric. Allora, uno è caduto giù. Uno è a terra, uno è morto, sì, schiacciato con la testa da Giulio, e l'altro è in piedi e combatte Kat. E combatte Kat. È quello che di solito fai i danni tu. Allora, tocca quello lì. Vai. 22. Preso. 8, 11. Anche se non l'hai attaccato, vale come affiancato? 15. Se lui attacca te, sì. Se lui ha attaccato lui, sì. No, sta attaccando il tuo. Se lui ha attaccato lui, sì. Perché lui, è in combattimento lui, con lui. Definisci lui e lui. Se il troll ha attaccato lui, sì, perché sta, è in combattimento no, comunque. In realtà basta essere uno di fianco all'altro. Va bene, dai. 18 e 25. Anche senza 25. Basta la posizione. Finito il turno? La descrizione dice, basta che tu abbia un alleato entro 5 piedi dal bersaglio. Dall'altra parte, insomma. E l'alleato non è svenuto. Sì, sì, vabbè, certo. Beh sì, comunque occupi un lato del nemico. Diciamo, quindi ci sa che non disturbi. Di distrazione. Esatto. Cioè, per una volta è logico. Sigla di Beautiful. Ma mi spiegate la cosa di Arci? C'era un motivo? Delle cose di Arci? Il vocale? Forse te altro. Allora, il troll ucciso da Giulio, spiaccicato da Giulio, si rialza, però è senza testa, quindi comincia a provare ad attaccare solo con le braccia, ovviamente, con svantaggio. Dare percentuale. Guardate, non colpisca l'albero spesso. È l'unico che può provare a beccare è Kat. Quindi ha quadruplo svantaggio. Non ti becca, però di poco. No, è uno svantaggio solo. Oh, non ti becca neanche col secondo. Fa una brutta figura. E gira così. L'altro, d'altra parte. Allora, ce n'è uno prono come che si rialza e attacca l'as. È una cosa, è un loop infinito. Ti becca, ti becca col morso e ti fa 9 danni di mezzi. Finché non moriamo noi, dobbiamo accatestare. Ti becca anche con le altre due unghiate. Con una ti fa 7 danni. Cioè. E con l'altra ti fa. Wow, il massimo 16. Oppure diamo 16, fuoco alla foresta. 12, 16 e la prima era 9 dimezzato. Oppure diamo fuoco alla foresta. 15, 7, 16 e il primo dimezzato che era 9 diventa 4. Prima era 9 dimezzato diventa 4. Faccio adesso l'ultimo 16 4. Hai detto? E poi ci sono stati un 7 e un 16. 7 e un 16. Ci vorrebbe dire entrare nell'accampamento in mezzo a 7. L'altro prova a attaccare Kat. Tutte le base da Monaco. Sono 3. Stavo pensando di fare una salva. Uno ne aveva di 3. Ma sì, si è rialzato, ma non ha più la testa, quindi va a caso. Faccio anche un diversivo, non può più fare il morso. Fossero due o tre, potrei provarmi. Giulio gli ha spiaccicato la testa col martello. No, scusa, ne sono arrivati 4 in totale. No, sono 3. Ah, uno non è shottato da Kat. Allora, no, uno era stato shottato da Kat, ma Giulio gli ha spiaccicato la testa. Ma questo, quello che Kat gli ha fatto i danni tipo da fuoco, radianti, sti cazzi, non è morto. Non gli ha fatto fuoco. Nessun danno da fuoco, nessuno di sono voi. Sono radianti, che è diverso. Nessuno di voi gli ha fatto né fuoco né acido. Gli ha spiaccicato la testa a Giulio. Questo si è rialzato. Chiaramente non sa cosa sta facendo, ma sta provando a colpire a caso. È una domanda molto scema. Quando uno sarà a terra, però, non basta prendere una torcia e picchiarlo. Per questo ho detto vai nel loro accampamento e prendi un... Esatto, scemo. Infatti ci ho pensato, poi ho guardato, non ho torce. Perché di solito uso... Nel press pack non ha tipo le candele. No, prego, le candele. Oh, finalmente lo becca. Peccato che è solo col morso. Ti fa 8 danni, Kat. Un secondo non... Il secondo non giusto, bravo. Quindi uno dei due ti becca. Veramente onesto, bravo. Non ho preso male. 13 danni. 13? 10. Va bene, questi Lui erano i troll. Che usa il cellulare per lanciare fiamme. Filip, sta a te. Allora, io perdo il mio turno a prendere una torcia, a ficcarla sul ramento vicino a me e incastrarla per renderla, metterla dritta, appiggiarla. 13 meno 13. Ah, ok, va bene. Le frecce infuocate. Si può fare? Sì, si può fare. Hai le frecce infuocate? Okay. Dopodiché uso Action Surge. Sì. Prendo due frecce, gli do fuoco. Sì. Alla punta. E le sparo ai due troll. Puoi fare tutto insieme? Sì. Non so, due turni però, considera. Sì, sì. Devi dirmelo tu. Cioè Action Surge, tu raddoppi gli attacchi. Ha un'altra azione. No, un'altra azione completa. Va bene, dai, ci sta. Vai, fammi sto tiro. Allora, il primo... No, ho sbagliato dati. Lo fai ai due in difficoltà, immagino. Allora, il primo lo faccio a quello senza testa. Sì. Faccio un 18. Preso. Figa, come e mi sa che muore, perché al minimo faccio 10 danni. Sì, muore. Potresti fare un disegno del troll senza testa a cui tiri una freccia infuocata. Sì, fine. Sarebbe bello se faceste un disegno. No, scusa, minimo non faccio 10 anni, minimo ne faccio 19, quindi... Bene. Secondo lo prendi? Il secondo no, aspetta, devo tirare. Il secondo faccio solo 7 e 4... Io faccio 6 e 11 danni per un attacco. Sì, la 11 per colpire? Lui dal livello sì. 11... Non prendi. A 3 attacchi a turno. Ok. Più Action Surge ne può fare 6. No, ne può fare 4. Ok, 6. Sta a... Un turno di azione in più. Se lui ne azione attacchi, ne fa 3. Un'azione in più. Cioè, puoi cazzo. È a livello 20. Io ho 2 attacchi. 8. Cosa c'è ancora? Allora, quello che si è rialzato è stato colpito da una freccia infuocata ed è a terra che brucia. Mentre davanti a te c'è... Io, ragazzi, ho 2 turni. Ho 2 attacchi, non ne ho 3. No, dal prossimo livello ne hai 3. Per cui c'hai due, ce ne hai dal livello 11. Uno su di te e uno su di là. Vai a leggere. No, no. Vabbè, dal livello 11. Giulio si è arretrato. Non è più un pericolo. Dal 11 no. Si fa 6 attacchi. Allora attacco quello di là, cercando di distrarlo. Dal Basta. Vabbè, vai. Pensa, a me non fanno neanche usare l'unico talento che ho per far più danni all'inizio del combattimento. 16. Preso. Almeno voi ce l'avete. Con 3 attacchi, se colpissi tutti e 3, potrei fare tipo 150 danni. Sono 30. Quanto? 9 danni? E poi col secondo attacco 15. No, scusa, è un 14, non un 4. No, ma sì. Allora manchi. Preso. 12. Se colpissi con tutti e 6 farei massimale 178 danni. Siron, tu assisti alla scena, a meno che tu non faccia qualcosa. Beh, intanto dimmi cosa vedi. Allora, praticamente i troll infilzano questo tipo su uno spiedo. Da dove? Dalla bocca o dal culo? Sta mangiando i bisogni. Sì, ma ora mangiano anche questo. Quindi io vedo la scena in cui lo uccidono proprio. Lo infilzano, praticamente, e lui urla come un cazzo di... Ah, quindi dal culo. Sì, sui lato. Urla come un pazzo e lo mettono sul fuoco a urlare. Voi sentite un urlo devastante proveniente dalla zona dell'accampamento. Potrebbe essere Siron. Riconosciamo l'accento. Siron, fai qualcosa? Prego. Prego per lui. Popcorn. No. Sto pensando a un diversivo, ma... No, ormai è morto. E gli altri no, però. cazzo posso fare? Appiccare un mega fuoco non riesco, non ho tempo né oggetti. Cioè ho l'idea che possa. Cioè del quanto è umido o quanto è secco dove siamo. È molto umido in teoria, sono bagnato, cioè, siamo al suo al freddo. Cioè, quanto è secco? Beh, un fuoco lo puoi provare ad appiccare. È una torcia anche tu, penso. Sì, ma un fuoco abbondante, cioè che faccia da diversivo. Ci vuole un po' di tempo perché prenda molto fuoco, però. Cioè, secondo, nel senso, sono molte foglie secche. Cioè, se vuoi far dar fuoco alla foresta, ovviamente questo richiede tempo. Se vuoi appiccare un fuoco, puoi partire a farlo da adesso. Sì. Però, nel senso, ci sono i materiali o è tutto umido? E sei in una foresta? Sì, ci sono i materiali. È molto secco. Oltre al fatto che credo che tu abbia una torcia. Sì, ce l'ho la torcia, ma chiedo se è molto secco o no. È abbastanza per fare un fuoco. Cioè, puoi fare un fuoco, non sta piovendo. Sì. Però cioè, non diventa un incendio di una grandità, no, no, però di grandezza enorme, però se vuoi dar fuoco a un ramo e buttarlo in mezzo lo puoi fare, questo è il concetto. Se vuoi fare una pira incandescente visibile a chilometri di distanza, questo richiede tempo. Vuoi fare un fuoco di medie dimensioni per essere universale, vuoi fare un fuoco, dipende dove lo fai. Chiaro che se lo fai urla, se lo fai all'inizio del se lo fai lì, è probabile che lo vedano facilmente, però probabilmente vedranno che la mia idea è se qua c'è l'accampamento da fare un fuoco qui e girare dall'altra parte. Sì, ma se lo vuoi fare di dimensioni da diversivo devi rimanere lì a... infatti è quello che dicevo. Quindi tanto vale che tu lo puoi far partire, poi ci vorrà un po' prima che prenda... Allora, bene, ovvio, quello provo a fare sbattendo dei rami così molto rumore, un punto. Lo faccio tipo... per metà turno, per dirtelo in gioco, e per l'altra metà, cioè un'azione, l'altra metà del mio turno mi allontano silenziosamente. Basta anche un danno da fuoco. Va bene. Cioè magari urlo anche, cioè faccio un gran baccano e poi me ne vado. Ti muovi in stealth o o corri al massimo della tua velocità? Stealth fai a metà. Più in teoria saresti anche impedito qua, dalla foresta. Se però se corro mi sentono. E certo. D'altra parte, avendo urlato... ma voglio attirarmi in un punto e io allontanarmi da quel punto. Sì. Quindi mi allontani in stealth. Dimmi tu. Sì. Tu ovviamente ti vai meno lontano. Sì, va bene. Tieni presente questo. Vai. 15. 15, ok. Va bene. D'accordo. Reagiscono loro. Adesso vediamo. Intanto andiamo con gli altri. Eric. Recatto. Chi c'è vivo o morto? Allora, ce n'è uno che ce ne sono due che ha che sono in piedi e stanno combattendo con voi. E uno a terra bruciando senza testa. Loro sentono il solito io. Voi avete sentito un urlo belluino e poi dell'altro casino più tipo del fruscio. Io dall'albero non vedo niente. No. Non sei abbastanza in alto, puoi salire. Tutte le vostre coscienze, questo è scemo. Attacco il solito. Io vado il bastone, appena usato una carica. Il solito, quello di cacca. State incrociando. 21. Preso. Non so. 6, 16, 22, 37. Va a terra. Fine? Bello perché torna su. torna su. No. Si rialza e dice: ma chi è che mi ha buttato giù? C'è proprio subito dopo, bellissimo. Tu Com'è? 10 danni di morso. Com'è? Uno non ti becca di brutto, l'altro ti becca invece. E ti fa 11 danni. 16 totale. L'altro prova ad andare su quei 11. Prova, molto bene. Non ci riesce col morso. Non ci riesce con l'altro. E non ci riesce con l'altro. Va bene, sta a Filippo. Allora io vorrei prendere una freccia, metterla sulla torcia, sì, e preparare l'azione quando un troll cade a terra gli tiro. È già caduto uno. No, è tornato solo su. Sì, ma se gli fai danni ricade. Va bene. Vabbè. Puoi preparare solo un tiro però, giusto? Sì. Se gli fai danni ricade. Non lo so, però facciamo di sì perché devo anche dargli fuoco, mi sembra che abbia più senso. Va bene. Sta a Arian. No, Quaker. Sì, però io non lo so. Ma perdona, l'hai fatto prima, no? Con quello senza testa. Quaker. Ed è andato. Va bene. No, nel senso non so se se già in piedi giusto, cade fare col fuoco, non un insight per capire chi è, che cos'era l'urlo che abbiamo sentito prima. Un insight. Non so come capisco il significato di quell'urlo. Sì, però dovete buttarne giù una per era un urlo di un essere umano, presumibilmente. Ok, quindi non è magari un urlo di loro che cercano di intimidirci, per cui dovrò fare un urlo più forte per stabilire. Non era un urlo di troll. Ok, peccato. Allora la cosa mi... Era di uno più stupido abbastanza. Di un troll, probabilmente. La creatura... Allora, faccio un attacco a quello che si è rialzato, facendomi aiutare dal mio cagnolino. 26. Preso. 13 danni. 13 danni va a terra. Ok. Boom, tiro. Vai. Mi manco. Con vantaggio. No, non posso mancare perché non uso il poderoso, quindi 20. No, con svantaggio. Con svantaggio perché non è a sì, terra. Esatto. Però non ha destrezza, raga. È a terra. Però è svantaggio. Sì, sì, se chi attacca è oltre 5 no, piedi da quello che è a terra ha svantaggio. Possiamo dire che è in una posizione sopraelevata, quindi vai, tira, tira normale, senza né vantaggio né svantaggio. Forse il vantaggio di sei in alto a nulla lo svantaggio. Non lo becchi. Deve decidere lui. Perché finisce sotto un cumulo di terra che gli dà più 36 la CA. Vai. Gli dai fuoco, vabbè, gli dai fuoco. Quindi ne rimane un altro. Yes. Lì di fianco. Allora gli do una sventola. Se manco, 15. Non l'hai detto. Preso. Ah, preso. Scusate, la CIA. 8 danni. E poi corro verso la direzione dell'urlo. No. Pensando che mi è un pericolo. Quindi può farmi un attacco di opportunità. Esatto. Con svantaggio. Mezzo. Mannaggi. E che palle. Niente. Va bene. Chi di voi si beccherà in faccia 7 troll? Su chi verrà usata? Su chi verrà usato il bastone della resurrezione? Su nessuno, perché le cariche non ci sono. Anche questo è un risultato. No, ma con la carica. La prima cosa che ha fatto è stato scaricarla appena ha avuto in mano. Adesso scarico un'altra. Arian. In questo modo sei più conscio. Scarico un'altra carica. praticamente è morto una lucetta. Eric è tipo 11. Ah no, pensavo su di te. Per questo sono full. Che cazzo ti dicevo? Che cazzo fa? Pensavo lo scarico. Non hai capito? Giulio ha mosso il piede e ha pestato una lucetta. Ah, hai ragione. Povera lucetta. Esatto. È giusto. E con la Spiritual Weapon attacco il troll. Cavolo, sto combattimento dove è? Potresti curare un troll. Infinito. Sono 23. Più che altro sono altri 7, più che altro. 23. La servo tu. Sì. Potresti sa che devo cambiare nome. 8. Ne ho messi 10. Volete dire che avete sempre paura di farvi combattere. Intanto voi ne avete 3 e io ne ho 7. 8 dovreste cercare. 8 danni. E considerare anche che dobbiamo uscire. Beh, in realtà quello non cambia niente rispetto a. Non cambiamo un cazzo perché faccio pochi danni e sicuramente non do fuoco. Ecco, ho delle torce. Forse è l'unico vantaggio. Sì, potrei incendiare il bastone. Sì, poi però distruggevo il bastone. Bisogna avere fantasia, ragazzi. 19. No, avrei usato la torcia come arma, molto semplicemente. Va bene. Questo era Arian e ora sta a Sirron. Reagiscono al baccano? Sembra che si stiano avvicinando, però hai la possibilità ancora di muoverti. Aspetta, si muovono tutti? Li hai sentiti? Avresti voluto lasciarli lì mangiare, noi saremmo arrivati. Hai sentito del movimento, non puoi sapere. A meno che tu non voglia nasconderti, no, prima sempre in vista dell'accampamento. Dimmi tu cosa vuoi. Non ho capito. Io avevo capito che tu tornavi indietro al movimento. Allora, questo è l'accampamento. Ok. Io ero qua prima, mettiamo. Dopo gli vanno tutti di vicino. Faccio il baccano e poi aggiro. Cioè, rimani in vista dell'accampamento per vederli? Sì. Cioè, la mia idea. Ti dico. La mia idea che sarebbe la perfezione del piano è: faccio baccano da una parte, tutti si distraggono ad andare da quella parte, io arrivo dall'altra, magari arrivano anche i miei amici in soccorso, non lo posso sapere. uso tutto questo come diversivo e riesco a liberare sì, parte fatto 15. Almeno dei 18 avevo fatto. No, era quello prima, era 15. Era l'ultimo. Ok. Allora, ci sono alcuni troll che vanno nel punto dove hai fatto tu, effettivamente. Ce ne sono tre che indicano dove sei tu e vengono verso di te. Posso però nascondermi? Quello è quello allora, che è successo l'altro turno. Ora sì, puoi provare a scappare oppure a nascondere. Provo a nascondermi. Vai, picchiali, fai il coraggioso. Vai, vediamo. Con svantaggio. Sì, uomo. Con svantaggio perché stanno guardando me. Cazzo, con svantaggio. E annusano. Cazzo, con svantaggio. Sì, uomo. Scappo. No, volare. Ci provo. 12. Poteva andare peggio. Guarda così, sempre aggirando. Sì, lo so. Capito? Visto. Sempre aggirando. Sì, sì, sì, sì, farvi a nascondere. Sì, però sempre intorno all'accampamento. Fatto sta che ti trovo. Sicuro. Eric. Attacco quello che è rimasto in piedi da noi. Questo era stato il perché io avevo capito che tu eri ti eri allontanato. No. Quindi in realtà questo tu l'hai visto lo scorso turno, quindi adesso hai fatto questa cosa qua. Anzi, fermi tutti. Perché lui è andato via. Lui è sull'albero. Lui è in corpo a corpo. No, ce n'è uno da solo e tu sei lì. Me ne vado, non faccio neanche il furtivo. Ciao. E non devi disingaggio, me ne vado. Ok. Sì, dire vai in che se dove? Non verso l'accampamento per adesso. Me ne vado via. Ma il tuo capitano c'è. Cioè. Anzi, no, posso fare anche un'azione. Disingaggio, me ne vado e mi nascondo. Lars prende la barca e torna in continente. Ehi, devo ritirare. No. Sì. Anche gli abiliti? Alpling. Sì. Ah, è vero. 16. Va bene. E tiri sempre gli uno. Sì. Allora, il troll rimasto vede un piccolo bambuino che va via. Ma c'è Giulio. Sono lontano. Però poi fai un movimento. No. Sono lontano due volte da dove c'era. No, è vero, non mi ricordo, mi ricordi. Allora devi tirare. C'è da dire che l'altro si sono su un albero. Ah, è vero. Ho capito, ma tra il break e quello sull'albero non so. No, mi ricordo. Beh, quello sull'albero è a 5 metri, per un troll non sono nulla. Come scusa? Col morso però. Io sono due azioni di movimento lontano, peraltro. Sì. Tiri d'attacco, abilità e ti risolvi tutto. Shove com'era pure? Puoi tirare. Sì, ma sei a 5 metri. È un troll. Prova contrapposta, se la vince lo spazza via. Lui ci avrà uno svantaggio perché è sull'albero, direi. Di che? La prova. Ma la prova di cosa? Forza. Cioè, di forza? No, io difendo con destrezza. Può distendere con distretta, sì. Sempre però con svantaggio. Perché? Acrobazia. Sei su un albero. Mi piace la giustificazione. Quanto hai fatto? Allora, 5-10. Ok, cadi dall'albero. Quanti sei? Ok, cadi. Come 2 di 6? 1 di 6. 2 danni. Ma un di 6 di cosa? Caduta. Ma sono a 5 metri! Prova a cadere da 5 metri, poi vediamo. 2 danni. E poi fai gli altri attacchi. Capito? Se cadi bene a 5 metri non ti fai un cazzo. Tu non cadi tu bene. Tu non cadi bene. Ti cadi abbastanza bene. Allora. Classe armatura? Beth, ascolta. Ah, vantaggio perché è caduto. Beth, sta insistendo troppo. Cade sul polso, sullo storso, non può tirare. No, fermi fezze. Tutti. Classe armatura? 16. Ok, vantaggio perché è prono. Preso. 8 danni. E poi secondo attacco. Vantaggio. Hai detto, scusami, di 16, giusto? Quindi preso. 16. 15 danni. In totale? Allora, ti ho detto il primo. Non hai sentito? No. Grazie. 10 e 15. Ah, 15. No, 8, 15. 8 e 15. 8 e 15. 8, 2 e 15. 8, 2 e 15, esatto. 25. 2, 8 e 15. 15, 20, 3. 79. 3 troll. se lo sciogli lì. Allora, troll entrarono a Trento. Nel campo, quindi tre assegno, sono rimasti quattro nel campo, eh? Allora, intanto tre vanno su sci. No, era per sapere. Tre li avevamo noi, tre da lui, quattro in campo. E quattro escono anche loro in realtà, ma... Da un'altra parte. Ma vanno verso di voi, in qualche modo. Adesso li vedrete, forse. Sì, sì, io mi sono allontanato. Sì, ti vedono. Sì, tutti e tre. E hanno il vantaggino, basta che uno ti senta. Bam, bam, bam. Kingsmere. Non hai fatto neanche un critico? Strano per te. Adesso bisogna colpire. Usando. Adesso bisogna colpire, vediamo cosa c'è. Ho 20 allora, di classe armatura. 20? Mi hai dato il braccialetto. Congratulazioni, vieni comunque preso dal morso di uno che ti fa 5 danni. Vediamo gli altri però a questo punto. Se si rimasta 60 punti. Non ti prendono. Allora facciamo direttamente... No, però il primo morso non ti prende, col secondo sei fortissimo, scemo. Fortissimo, però poi dopo ti becca con entrambe. Allora, uno sono 12 danni e l'altro sono 8 danni. Poi arriva l'ultimo. E tieni pronto il bastone. Che non colpisce col morso. Il bastone ormai scarico. Fumble e non colpisce con l'altro. Quindi facile, facile. 25 danni in 3. Ma saranno anche nemici questi. Adesso arriva il mio amico Filippo, e gli altri avanzano. E dai, io scappo adesso. Fantastico. Gruppo di 10 troll, no? Gruppo diviso. E Filippo. Tiro su saggezza, no? Come facevamo? Per la paura? Ma tu non hai qualche inspiration? La paura. No. E per vedere se scappare o meno in una situazione del genere sì. Però mi tiri su saggezza con il vantaggio perché il tuo personaggio con la sfinge è salito di livello, ha un boost mentale. Boost mentale? Quanto hai fatto? È comunque 7. Allora hai un po' paura. Ciao, scappo. Scappo, allora con l'azione bonus mi curo di 10. Sei prono. Vabbè, mi alzo e scappo uguale. Prendi attacco d'opportunità, quindi. Vabbè. Non fa disengaggio, scusa, non ho capito. No, sta facendo l'azione bonus per fare un'altra cosa, se ho capito. Sì. Però non ti prende. A meno che non sia... No, però non mentre sia Alex. Va bene. Non ti prendo. Vabbè, mi curo comunque di 14. E poi fammi vedere se posso fare un'altra roba. Mentre scappo. Cazzo, hai per 93 punti ferita. Giusto che lui si è rifilato, tra l'altro. Una per attacco. Niente, non ho attaccato, quindi non la posso usare. Niente, scappo. Va, questo era Philip, ora sta... Ah no, aspetta, è when you move, sì. Quindi uso un superiority dice per aumentarmi la classe d'armatura. E finché continuo a correre la mia classe armatura non è più 16, ma è 21. Sta a Quakert. Oh, che succede intorno a me? Senti dei rumori di cose che corrono nella tua direzione. Non riesco a capire quante da rumore. Abbastanza grosse. Interessante. Allora, mi vengono proprio incontro. Stanno venendo verso di te. Però ancora non li vedi, però cioè li intravedi e però sono ancora un tour. Se fate un passo avanti uno verso l'altro vi beccherete. Stavo pensando ad una cosa. Tipo fare Misty Step prima che loro mi vedano. Devo vedere se deve essere un punto che posso vedere, posso dire vado avanti di 30 piedi così alla cieca. Va bene, intanto guardaci, intanto facciamo Arian. Ok. che è rimasto da solo, anche se lontano, rispetto a... Con il troll, no? Sì. No, l'arma spirituale lo attacca. Mm-hmm. 13? No. E io gli sparo invece... Una cura col bastone? Siamo, no, cose... dei cantri. Comunque deve fare un tiro sulla destrezza. Sì. Sparo Sacred Flame. Classe difficoltà? 17. Non passa. Cosa fa? Fuoco quella? No, con danni radianti in realtà. Radianti. E sono 11 danni. 11 danni. Però va bene. Hai fatto il turno? Sì. Va bene. Il punto che vedo. Quindi devi vado a sinistra in modo da evitarli. Mm-hmm. Per il mio momento. Ti nasconti? Mi provo a nasconderlo. Vai. No. Normale. Non ho l'armatura, non dà svantaggio lo stesso. Dipende dall'armatura. Se hai la competenza, mi sa di no, che se hai la competenza, no, mi sa. O sì? Sì, è smartphone. Vai. Uno e due. Un totale di interessante. Fai luce uno sull'armatura. Sono qui, sono qui. Ma tipo, un ciampa, si sente un clangore metallico che si rialza come se non fosse. Comunque non vai verso di loro, so capito. A sinistra. Va bene. Ok. Questo era Quaker. Basta? In teoria facciamo il mio movimento completo. Sì. 60 piedi a sinistra. Sono. Ok, che poi in realtà stai nella foresta, quindi andate tutti a velocità di mezz'ora. Il cane è venuto con me, però lui non ha svantaggio. Wow, il cane è bello. Mamma mia. E... Mi sembra una prova di gruppo. Ehi, nice try. Grazie, è arrivato il momento. Stato Sirron, sei contro tre troll. Ha paura e catta che è andato via. Quindi? Scappo. E scappo. E disingaggio? Disingaggio e corro verso di loro, cioè da dove sono arrivato. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. La tua velocità? La mia velocità è... Io ho segnato i metri 13 e mezzo, scusami, non odiarmi. Perché ho più veloce l'incremento. Normalmente si è 30 piedi, no? Sì, io ho l'incremento perché. Col fatto che fa disingaggio non può fare doppio, dire, giusto? Aspetta. Sola. Aspetta invece di due. Perché mi non hai delle base col. Aspetta. Come quando? Per correre no. Cioè per scappare dici. Sì. No, al massimo. Le cioè, robe che ti teletrasportano. No, allora, vedi tu, puoi fare due cose, prenderti gli attacchi di opportunità, oppure fare... Aspetta. Ho 15 piedi in più. 45. Mm-hmm. Ok, va bene. Però il discorso è, puoi fare o due azioni di movimento e prenderti gli attacchi di opportunità, oppure un disingaggio e una tua azione di movimento. Se disingaggi arrivano. Se non disingaggi non arrivano. No, però arrivano adesso. Beh, anche se si muovono di 40 piedi, okay, lo beccano comunque. E quanto è che ha però una portata? Lo beccano comunque però. No, mi beccano dopo, mi beccano adesso. In effetti non possono fare tutte le azioni. Se lo raggiungono non attaccano. Però no, disingaggio. Desideri disingaggiare. Sì. Disingaggio. È la stessa cosa di lui con la nebbia. Maledizio. Aspetta un attimo che ragiono velocemente, ma no. Però non posso fare poi le curarmi, no. Niente, disingaggio e scappo. Ok. No, col chi non posso fare. Eric. Io a batteria scarica. È morta la welcome. La batteria scarica. Arrivo. Devi dire non mi sento tanto bene, signor Star. Non mi vedo tanto bene, signor Star. Ma ci sono un adattatore. Serve un carico batteria. No, ce l'ho, però lo sposto. Mm. fermo peso come se attacca la cosa. Vabbè, continuo. Allora, ci vedrai in una nuova versione. Siamo stati aggiornati, Salla. Non come il computer di Vest. Oddio. Questi continui cambi di scena, di regia, bello. Campo con la cazzo, tutta un'altra prospettiva. Con Salla potresti inquadrare Salla adesso. E fare un loop, cioè, di infinito di Salla. Vederti, no, io mi vedo già, ma non specchi. No, sì, però. Va bene, così vedi... Così vedi Laz che cattura i Pokémon. No, adesso non sto giocando. Ora però tu vedi Salla. Oh, via, ciao. No, vedo Giulio che cattura i Pokémon. Vedo Katta che cattura i Pokémon. Non stavo cattando. Katta sì. Katta sì. Katta sì, veramente. Scusatemi, mi sono perso. Sta a Eric. Io no, ho Eric, scappato. Eric. Me ne rimango nascosto per adesso io. C'è uno in mezzo e non posso fare attacchi. È il peggiore della storia. Ah, sì, un po' sì, ragazzi. E va bene. Dice sembra che qualcuno scappa. Stai troll allora. Qualcuno è scappa. Per questo che Vez ci baffa, perché noi ci nerfiamo da solo. Allora, il troll avanza verso Giulio. Avanza. Ti fa i suoi movimenti ed è da te. Direi, io non ho capito bene tu dove fossi, ma va bene. Ed è lì da te. E gli altri avanzano su Sceo e sono su Sceo. Gli altri avanzano su Katta e sono quasi da Katta. Ah, ti hanno visto. Ora sta a... ma arrivano solo a... Cioè sono proprio portato, sono ingaggiato, ma non... Non hanno il tempo di attaccarmi. Sono quattro. Con quattro? Yes. Poi sta a Sirron. No, che cazzo dico? L'ho appena fatto. Sta a Philip. Se vuoi va bene, scappo ancora. Scappi ancora? Ok. Sì. Quaker. La cosa della paura ti passa a un certo punto durante... In teoria sì, se vuole. Sì. Cioè sei lontano e pensa di essere sicuro. Devi ingaggiare? Iniziale. A me non sono ingaggiato. Sì. Ti addosso. Non può attaccare, però ti addosso. No, non vuol dire un cazzo sta cosa. Perché lui quando faceva sta pugnetina qua non si è mai preso le opportunità da me. Non hai detto che se uno gli arriva lì. No, non ho capito. Ai fini di che cosa? Non provare, raga, come non cazzo, li prendi, come cazzo vi pare? Mi avete rotto. No, se no era diverso anche l'altra volta. Io ero a 60 piedi, però ho usato tutto il suo movimento. E poi tu a 60 piedi vuol dire che eri tipo in mezzo al bosco che non vedevi niente, fondamentalmente. Cioè io avevo capito che te ti eri spostato un attimo, non credo. Mi allontano nel movimento. Sì, ma non mi allontano di due movimenti, quando mai l'hai fatto? Sono stati due turni in cui io ti ho detto mi allontano di un movimento. Ah, ok, boh, però sei finito tipo nel bosco senza vedere niente. Beh, non ho bisogno di vedere con l'arma spirituale, l'avevo avvocata e vista attacca. Va bene. E lui adesso è di fronte a te, quindi sei una sua minacciata, no? Sì, ma non ha portato perché non ha fatto l'attacco. È la stessa cosa di quando lo inseguivo io. Vabbè, non provateci neanche, se no. No, non provateci neanche a questa cosa. Se adesso si vuole allontanare, deve disingaggiare. No, sì. Non l'ha mai fatto. No, effettivamente. Non ci provate neanche. Ti ricordi, lui arrivava, l'altro si allontanava. Sì, perché c'era la fog. Ah, no, non conta un cazzo, doveva comunque farlo. Non perché io avevo più movimento di lui. Beh, quindi gli arrivavo addosso. Però non mi. Dice large. Large di per sé è più portata. Io avevo rifiuto. Bene, era ferito. Cosa non ho capito? Larga di per sé più portata, no? Se non c'è. No, scritto. Deve esserci, deve specificato. No, ok, allora non c'è. No, vai via senza far disingaggio. Vai, non mi dai, scappate. Cazzo ti conosco, però. Pure uccidete. No, non vuol dire niente. Pure uccidete e riaggruppate. Vai, sta a Quakeheart. Ah, è vero. Li vedi che avanzano verso di te. Sono quattro, però non sono ancora in. Anche perché ha logica di teoria. Minacciato da loro. No. È vero che bisogna rispettare le regole, però anche a logica di interpretazione quindi contemporanea, quindi cioè non è che tu corri poi ti è la stessa cosa che è stato detto l'altra volta, tecnicamente va un po' in contemporanea, quindi sì, no, non è si continua così. Beh sì, il turno c'è un'iniziativa ma va considerato in contemporanea. Ho fatto 90 non è vero niente, Certo. Ho visto buoni, vogliamo fare l'iniziativa, è giusto, perché sennò si crea un caos. Aspetta un attimo, rega, non facciamo troppo casino. No, è di si fatto che va considerato sia secondi contemporanei. Non è vero, no, vanno come te. Vanno come me. Cioè, sì. Non è che mentre tu attacchi gli altri stanno tutti fermi. Ok, allora continuo. Sì, gli altri stanno fermi. Aspetta, finisco il suo discorso e poi continuiamo. Così che no, dimmi se ho ragione. Con le mie doppie attoriali di praticamente i 6 secondi del turno vanno considerati che tutti agiscono contemporaneamente comunque. Non è ma che no, non... ma non è vero niente. Certo. Non lo so, quello che volete, però continuiamo a giocare. Con le mie doti attoriali dico, oh no, 4 spaventosi troll, non lascerò che mangino le mie dolci carni e continuo a scappare. Le dolci carni? Ah, scappi all'indietro? Sì, continuo a farmi seguire. Ah, ok. Uso tutto il mio movimento. Torni indietro quindi? No, sempre a 90 gradi. Io andavo verso di loro, no? Mm. E loro andavano verso di me. Io ho svoltato di 90 gradi. Minchia, non vi ribeccherete mai più, rega. Non lo so, io forse ci sta. Bello, la prossima, sessione tipo ritrovarvi, ci sta, mi piace. E due personaggi nuovi tra abbiamo me un ranger che sono nascosti. Beh, io non trovo. Va bene, tu scappi. Non è fuoco. Ah, cazzo, dopo bisogna vedere quella l'entrance all'inseguimento. No, beh, poi in realtà ho le candele, accendo una candela. Va bene. Che cazzata è questa? Non la faccio vedere. Sì. Sta a te, Arian. E per quanto non hai messo il troll? Vabbè, prima combattuto. Più sì, o meno. Più che altro rigenera ogni turno, quindi più vai avanti. Eh sì, meno lo attaccate, più si rigenera, ovviamente. L'ultima volta l'avevi attaccato il turno prima? Sì. Ok, allora non avevo già contato. Forse. Sì, avevo fatto i danni radianti. Forse. Aspetta, non c'è nessuno intorno a me. No. Intorno a me. C'è gente che specifica vabbè, non è chilometri, non ancora no. Quanto ma è Sirron che li ha portati scontro di me e adesso non c'è. Sì, un po' di caos, è divertente così. Tipo Ben Hill, io che scappo da Trento, che scappi da altri. Dove è andato quel monaco bastardo? Appena lo trovo gli faccio un culo. Intanto ho salvato due persone che sono dentro un sacco, ma le ho salvate. Allora. Forse. Beh, se tutti... se tutti voi scappate, loro tornano lì, chissà cosa succederà. Questo è vero. Però in questo momento sono salvi. L'altro non è detto che sia morto. È stato pure bruciato, come avanti un altro, volevo tenerlo per domani, ma a questo punto... Allora, con la bonus action sposto la mia arma spirituale 20 piedi verso di me, quindi non arriva. La sposto intanto. Poi CD 17 sulla Costituzione. Costituzione... lo passa. Vabbè, niente, se beccare danni dimenticati. Allora chiedigli cosa sta facendo. Non lo so, cosa sta facendo? Thunderwave. Ah, ok. Finalmente. Era un bel po' che non succedeva. Quindi lo sbalzi pure, forse. No, l'ha passato. No, l'ha passato. Però in realtà, aspetta, perché no? Ora sì, puoi tornare a combattere, forse. Puoi tornare a giocare, forse. Io? Non lo so. Non so se sei salvo di sogno. Sì, a giudicare quanto si è allontanato ci metterò gli anni. Ma anche tu comunque puoi... non so, ragazzi, sono sparpagliati. No, non ci metti gli anni, ci metti un'azione. Completa il movimento. Fai due azioni... guarda che fai due azioni... No, è fuoco. Prendi una torcia, accendi. Non ho nulla per accendere. Comunque, Lazo, se fai un'azione di movimento completa, arrivi, lo sono io. Su due azioni di movimento. In automatico, accendino e pietra fuoca. Sono due di dovrebbe essere l'Explorer Pack, dovrebbe essere completo. Secondo, terzo e quarto. Aspetta, perché tiro? No, non tiro. Massimizzo. Vai. Quindi sono 40, la metà 20. Sì. 20 danni. Datemi un attimo il giocatore. No, sposto. Ok. Allora, però aspetta. Bim bum bam. No, non l'hai preso il turno precedente. Sì. Con radianti, danni radianti. No, hai fatto 13. No, con la. Allora, faccio due cose io. Attacco con l'arma spirituale e ho fatto l'incantesimo. Sì, boh, va bene, dai, ci sta. Chissà. No, è che l'ho preso. No, ma non mi ricordo se l'ho fatto rigenerare questo turno, perché secondo me non l'ho fatto rigenerare. Sì, sì, adesso non lo so. Secondo me no. Tira un dado, se pari sì. Negli altri set direi che non è un problema. Da tanto una scappata. Siete già scappati. Ok. Anzi, adesso tra poco succederà una cosa divertente, in verità. È large? Sì. Bene, allora viene sparata a 10 piedi via da me. Olè. E quindi io mi muovo di 30 piedi. Ok. E è anche brutta, non so se è colpa mia. Boh, può essere che sia un po' scarico. Ci senti comunque? Ci sei un po' più lontano? Sì. Allora, questo è... Questo era Arian. Ora sta a Sirron. Continua a scappare. Perfetto. Arrivi praticamente in un punto dove ti trovi davanti a te, di spalle, quattro troll. Davanti a te di spalle? Esatto, sono davanti a te, però sono di spalle. Ti danno le spalle. Ma ti vedo che succede una cosa bellissima. Adesso mi hai in direzione. Cioè, cerco di evitare... Cioè, loro in che direzione? Stavamo andando davanti a me. Dritto. Cioè, davanti a te, tipo, arrivi e ti vedi, tipo, quattro troll che stanno andando. E non li stai seguendo. Ma io non li stai seguendo. Io stavo tornando indietro. Se lui ha deviato, sono in un'altra direzione. Ma ha deviato, tu eri qua. In 300 piedi a dove sono si sente il rombo del tuono. Ah, sì, sentito un rombo di tuono. Questo è Giulio. Vabbè, cambi direzione. Sì, rimani comunque però in quella zona lì. Sei arrivato lì col tuo movimento. Ah, ok, mi fermo e mi nascondo. Allora quando mi vedo mi nascondo. Vuoi fare facevi i tuoi due movimenti, no? Non mi hai detto che facevi i tuoi due movimenti. Sì, però quando li vedo mi fermo, cioè non gli corro. Cioè, no, ti fermo prima. Due turni. Appena li percepisco, mi fermo. Però non riesci a nasconderti. Hai finito tutto il turno là. Sei un po' distante. Quindi altri 120. Cioè, non completo il mio movimento in modo da stare un po'. Però sei a portata. No, a portata in che senso? Se uno si volta e vede adesso di te. Se io faccio un movimento, li vedo. Hai fatto i tuoi due movimenti. E sei sbucato. Ok. Davanti a te, 10 piedi, ci sono questi. Se io faccio un movimento, già li vedo. No. Ok. Allora sì. Ok, questo era Sirro. Ora sta Eric. A casa mia, stai lì, in un buco. 500 metri. Ok. Stai troll. Allora, facciamo prima quello di Giulio. Non ho capito cosa ha fatto Sirro. Ah, io quello di Giulio, scappare. Tu poi quanto hai fatto loro, di stealth? 15 su 16. Non ho avuto 16 tempo di nascondermi, però gli sono rimasto 16, un po' a distanza. Cioè, in pratica io sto scappando da tre troll e ne ho davanti quattro. D'accordo. Tipo, ok. L'importante è continuare a scappare. Infatti, no, che magari mi viene il dubbio. Cazzo, ma mi hanno superato, tipo. Mi sto per doppiare. No, però questi sono quattro e gli altri sono tre, giusto? Allora, un paio di troll si accorgono di questo, Sheo. Ti vengono incontro. Sheo fa la scheda nuova. Boh, a me sembra strano però che io non abbia possibilità di fare un morsetto. Cioè, quanto hai le classe armatura? Però 20. Cioè, non è che se sblocco che dico faccio il movimento lo faccio per forza tutto. Ma questa è la foresta. Sbuchi dove fai? Stai andando a disperata. Sbuchi dove sbuchi. Comunque uno non ti prende. L'altro però fa un critico. Col morso però, non ti preoccupare. No, ho fatto 2-1. Quindi sono solo 6 danni. Che schifo. Vediamo l'altro cosa fa. Uno non becca, l'altro becca invece. Fa pochi danni, 9 danni. Quindi io tra pochi secondi ho 5 troll addosso. Sono tu che sei andato via. Gli altri proseguono su Katta, ma se ho capito non possono raggiungerlo. Se andiamo alla stessa velocità. Aspetta, mi ricordo un personaggio che entrò da solo in uno scantinato e morì. Venne schiacciato. Io? No, è sempre lui. Philip. Vabbè, avrà un altro... È vero, mi ricorda molto il suo vecchio PG. Comunque mi giro, vedo qualcosa? No, solo foresta. Allora, in lontananza hai sentito un tuono. Ok. In stealth o... No, a cazzo. Ok. Quakert. Ok. Svolto di nuovo di 90 gradi. Hai visto che due sono tornati indietro. Infatti. E... quindi però non hai capito bene perché. Il mio diversivo, quindi comunque vedo che non sta sortendo l'effetto desiderato. Che era? Farli correre in giro per guadagnare tempo. Due ti stanno inseguendo. E altri due invece no, quindi ce ne sono. Mi hai assimilato. Congratulazioni. Grazie. Hai vinto. Quindi svolto di altri 90 gradi sempre sia alla mia sinistra. E vado avanti per il mio movimento. Quindi continui a scappare in una direzione. Però sto facendo il giro in modo da tornare da dove ho partito. Ok. Vai. Sì, quindi torni verso l'accampamento. Verso il luogo dove combattevamo. Va bene. Sta a Arian. Il troll non ti ha inseguito. Sposto ancora l'arma spirituale in altri 20 piedi con il bonus action. Però mi sa che arriva il prossimo turno. Il troll non si è mosso, però rispetto a dove era. Vai. Sono distanti 10 piedi. In teoria. Boh, va bene. Perché io ero distante 60 all'inizio. Quindi 20, 20, 40, 40, 40, 40. 50. E ma sì, sti cazzi. Secondo me sta per prendere fuoco tutta la foresta, te lo dico. No. Non tutta. Gli ho lasciato la torcia lì. Ah, aspetta, sì. Giusto? No. Perché sti cazzi? Facciamo l'altro sti cazzi. Non volevo usare subito quello di qui. Con lighting. Che quello me lo farei proprio. E boh, facciamo. Usiamo solo l'altra sera. Destrezza 17. Cosa avviene? Mi sparo un film. Non passa. Si becca 3 di 10 danni. 12 e viene spinto ai 10 piedi via. Da me. Quindi in teoria adesso è ingittata dell'arma. Sì, in realtà tutte queste distanze andrebbero dimezzate, quindi volendo la tua cosa ci poteva anche arrivare, perché non penso che venga impedita dalla foresta, forse. Ah no, un tuo punto era no, quindi se vuoi puoi attaccare. Cioè tu in realtà non eri a 60 piedi ma a 30. No, ok, perché al terreno. Più o meno, esatto. Allora attacco con la spettuale. Quanti danni, scusa, hai fatto? 12. Ok. Però non è né fuoco né acqua. Cioè elettricità. Mm-hmm. Cioè fulmine in caso specifico. Sono 20. Danni? No, 20. Ah, ok. La classe armatura. E quindi sono 10 danni. Va giù. E torno su. Vabbè, adesso vedremo. Sta a Sirron. Ma adesso voglio fare una cosa molto flavor. Due addosso, tre che stanno arrivando da dietro. Se, tipo, e altri due davanti. Se dopo riesco a ribattere il viaggio con l'arma spirituale, sì, e corro. Io mi avvicino destra. Mm-hmm. Anzi, no, non sarà senza spoiler. Anzi, posso farlo in maniera casuale, perché sono un po' influenzato da quello che ha fatto lui. Sì, tu corri via, puoi correre via. Però sono. Cioè io giocatore sono influenzato, mi viene a dire destra perché so che lui è andato a sinistra. In realtà lo farei casualmente. Ma dimmi tu se vuoi tornare verso dove eravate tutti prima, sì, oppure dall'altra parte. Sì, però in teoria è la direzione che già stavo prendendo. Sì. O se vedo qualcuno sbucare dagli alberi, sparo qualunque cosa vuoi. Quindi provi un po' a deviare. No, se no scusa, posso disingaggiare e continuare dritto. Allora sì, continuo dritto, senza deviare, giusto? Faccio sempre il calcio. Disingaggio da entrambi, sì. Ok. Sì, non posso fare altre azioni. D'altra parte, gli altri sono anche un po' rotti i coglioni di seguire questo coglione qui. Dio, segnato. Soprattutto quando a dietro hanno qualcuno che possono andare a pescare. Lui ha deviato, però. Sì. Comunque sto combattimento sta durando. Però loro alla certa si sono rotti i coglioni adesso ormai. Quindi tornano indietro e chi trovano? Salga tutti lui addosso. Tutti fumble! Tre più indietro. Cioè, tre molto indietro. E l'altro poi subito indietro due volte. 11 più 4, 15. Vado a 25. 8. 8 più 4, 12. Ah no, aspetta, gli hai fatto 25 danni? Sì. Ma no, è 0. No, non ho fatto 25 danni. No. No, questo era 12, l'altro cosa ti ho detto? No, scusa, quanto sono? 15 e 12. 15 e 12 sono 27. 27. È giù. 27, vado a 7. Sei 25. Ah, ero 25, sono di 7. Giù. Giù. Giù. Ah, giù. Giù, giù, giù, giù, giù, giù. Oh. È cibo per i troll. Preso. Vorrei dire non che... ha fatto neanche un attacco. Va bene. Ecco, l'altro è andato via nel mentre. Addirittura. Ok, allora adesso con questi qua abbiamo risolto. Devo farlo subito il tiro quando tocca a me. Cosa tocca a te adesso con calma? E va bene, si spegne la luce per te. E... Vabbè, smetteranno di seguirmi. Sì, è vero. Potrebbero cominciare a mangiare. No. In teoria potrebbero dirsi soddisfatti e tornare al campamento. Ma infatti quello che faranno con Sheva. Con Sheva. È vero, con le ossa. Allora, è quello che faranno con lui. Allora, però sono tutto muscoloso, non sono buonissimo. Allora, questo. Non credo questo, che sia. Questo. Ma se gli fanno la cosa del palo. Uno torna su, però. Sì, perché da me. Può combattere contro l'arma. Il muscolo comunque la parte. Come no? L'arma è. No, è un'arma spirituale, è un corpone. È un concetto. È il concetto di. Prova a colpire l'arma. Vabbè. Va bene, sta a... Cosa è successo? Addio Sallo? No. Ha invertito la telecamera. Cosa è successo? Lo sta facendo con DVD. Sallo? Si vede molto molto bene. No, è quello, sì. Perché vediamo, non ti vediamo più? Hai tolto la telecamera? No, io non ti vedo. Come non ci vedi? Ok, è ripartito. Ci vedi adesso? No. Boh, dovresti vederci in teoria. Aspetta, ti richiamo. Va bene, cazzo, però stava lui. Vabbè, vedremo dopo cosa fa lui. Intanto Quakert. Quindi se io senti continuo che dritto, ritorno da dove sono partito. Sì, senti che non ti stanno più inseguendo. Ok, dico a Baldur, beh, bello, ritrova il vecchio Arian per me. Sì, tiro di perception. Come mi ammazzo il cane. 15 del cane? Sì. Va bene. Come valuteresti la qualità di questa chiamata? Amazon. Ma qual è il problema? 18. Sì. Ha trovato una pista. Non sai. Trenini, macchinine, cosa? Cocaina. Cocaina. È lì che corre. Gli occhi così. Giulio, stai chiamando tu o lui? Lui. Veramente non si vede, posso anche rispondere. Aiuto! Vedi, c'è solo quello di mettere giù la chiamata. Metti giù la chiamata. Adesso c'è. Eccolo! No! Andrò in bagno. Che bello! È come la sessione scorsa, adesso comincia, bellissimo. Ma questo problema è suo, non nostro. Sì, sì. Mi sa di sì. Sta squillando. Senti? C'è. Però non ci vedi. Però non c'è niente, aspetta, dai un attimo. Sta squillando. Eccolo. Aspetta. Ok. Deve cambiare, aspetta. Sta dicendo ok ora, immagine. Direi che ci dovremmo essere. No. No. Io vi vedo, ma cioè vedo la parte opposta, ma e vi sento. Aspetta. Così è disattivato. Sì. Allora aspetta un attimo, cazzo. cazzo è? Prima si comincia a fare. Proviamo a richiamarti un secondo, sta un pezzo. Vabbè, ma tranquilli, ma anche solo audio. Così ci vedi? Sì. Va bene. Mistero. Ok. Avete un doppio saldo. Non so quale guardare. Che tra l'altro, boh, chissà perché c'è quella barra blu. Comunque, vabbè. Filip, sì, stava a te. Quindi rientri? Io riarrivo, sì. Fammi un perception. Fammi un perception. Perception. Perception 7. Ok, non vedi nessuno. Quindi. Dove sei? Io sono... Dove eravamo all'inizio? Vedo la mia torcia, però. No, non sei ancora lì. Lui è ancora di più. Anzi, più avanti rispetto a dove sono. Lui è ancora più lontano perché è scappato. Va bene, questo era Philip. Quaker ti ha fatto. Sei andato in qua. Quaker ti ha fatto. E Arian. Si è ripreso il troll. Sì, stava provando a combattere. Attacco con l'arma spirituale. Sì. 24. Preso. 10. Sì, a un certo punto subentra tipo un concetto di stanchezza, perché tipo un loop infinito sta diventando per lui. Ok. Lo butta giù, ritorna, lo butta giù, ritorna. Vabbè, tant'è, se ne andrà. Tipo alla più veloce dell'arma. Tipo la sessione infinita. Mi avvicino. Sì. Oh, Giulio si avvicina. E provo a fare invocare la mia divinità. Mi sta provando letteralmente tutto. Intervieni! Perché? Intervengo. Cioè, ma è un modo carino per dire che bestemmi o... No, è un mio potere, è un dado percentuale. Se col dado percentuale faccio... Vai, facci vedere, Giulio. 10 o meno. Vai. In teoria il mio dio interviene. Vai. Tanto non sa fare. Vabbè. L'idea è che fare un rituale che tolga la rigenerazione a tutti i troll che ci sono nel vicinato. Ci può stare, dai, 10%. Sì, 10% di possibilità. Vai. Conta che per una settimana, se riesce, non lo posso più usare. No, 86. Intervieni, Dio. Dio. Ma, niente, sono lì che sto facendo col sangue di troll qualcosa, ma non succede niente. Ah, ma sei dal troll? Sì, sono vicino a troll. Ah, sei proprio dal troll. Dopo, se si rialza, un po' più c'è. Vai. Sto facendo le cose col sangue, è strano. Sì, Ron. Sono divertente. Ah, devo tirare. Sì. Molto divertente. Ah, no, aspetta, ma come posso usare una bonus action? 10. Esce un paio altro. 10? 10 è buono o no? Sì, buono 10. 10 è buono. Vai, un successo. Al limite, ma sì. Esce un fanno PG. Puoi notare, Eric, se tu guardi bene le cancellature, è già stata usata questa parte sulla mia scheda. Faccio un perception. Dai, avete mai fatto 3 PG in un'unica campagna voi? 10. Non ho fatto neanche intorno due. A te non c'è nessuno. Forse puoi tornare a giocare. No, rimango lì però. Rimani lì. No. Una volta che muori in maniera definitiva, perché morte. No, beh, certo. Una valanga. I troll. I troll agiscono e uno torna su. I troll cosa fanno? Nella loro fine? Classe armatura giù. Cosa fanno? Far morso? Il critto! Morso e artigli. Intanto vedevo se becca. No, ha detto agiscono. Cosa fanno quelli con lui? Ah, lo sapete, siete lì? Ah, io sì, me lo puoi dire, ti prego. Non sono, non c'è tipo la mia anima che va verso il gruppo. Cosa? 22 danni. Ma non c'è tipo e la con mia l'altra anima. 14. Non vedo la scena tipo in terza persona. No. Mia anima. Quindi mi fa due attacchi. 22 con un'unghiata e 14. Aspetta, con la prima unghiata prima si prende 2 di 8 danni. Vediamo se è ancora in piedi per darlo secondo. Vai. D'accordo. 5. Allora sì. E con la seconda si prende 12 danni. E va giù. Quindi ha fatto... Vi avete fatto finire il corpo. 36. Come vado? Uccidetelo, porca troia. tu ci mette cose che non abbiamo... Ho capito, ma non ci vuole un genio. Uccideli e non scappavano tutti quegli stronzi. Ma sta accendersi qualcosa e bruciando un po', regola sigaretta. No, scherzo. Io però. Non ho niente. intervieni, no, se riuscivo e toglievo a tutti i troll era sempre stato vabbè, se prendi un ramettino. Questo era lui, Philip. Continui ad avanzare? Sì. Ma tu dove stai? Verso dove eravate prima? Ah, tu sei vero, sei. Sì. Ok, vedi più o meno dove eravate prima. Vedi Arian. Un'arma che volteggia, un martello che volteggia e ti sembra una creatura stesa a terra molto grande. Posso fare qualcosa? Puoi tirargli se vuoi. No, non sparare. La torcia su chiamarlo. Chiamarlo, se no. Quindi puoi fare quello che vuoi. Hai fatto il tuo movimento. Vicino e accendo una torcia sul cadavere di un troll. Ah, no, no, ma il tuo movimento l'avevi già fatto. Puoi fare. Faccio l'altro movimento per avvicinarmi. Sì. Ok, sei. E accende la torcia sul cadavere di un troll. Sì, però non ci arrivi ancora. Lanzola, tiragliela sopra. Vabbè ragazzi, ho capito che si deve usare il fuoco, cioè, no, non mi avvicino a Giulio, mi avvicino al cadavere del troll. Dov'è Giulio? No, quello in fiamme. Quelli in fiamme sono ancora più là, non li vedi? È lontanissimo, No, non lontanissimo, però sono più là. E allora vado verso in là, però. Vai verso Giulio. Vado verso i cadaveri dei troll. Ok, vabbè, è la stessa direzione. Però non lo sa per me. Allora fai un giro lungo senza farti vedere? No, mi faccio vedere, ma non passo adiacente, adeso. Ah, ok, comunque la direzione è la stessa. Ma a meno che tu non voglia fare un giro lungo per non farti vedere. Non è un giro lungo per non farmi vedere, sto a più di 5 piedi da quel cazzo di troll a terra. Ah, ok, vabbè, quello sì, non ci arrivi ancora, però vai in quella direzione lì comunque. Sì. Ok, va bene. E Waycart. Ok. Mi sono ricongiunto con il tuo cane. Col tuo cane state seguendo la pista di Giulio. Ci sono arrivato, no? Arrivate nella zona, vedi i cadaveri fumanti dei due troll. E non si rialzano più. Se mi guardasse. Non mi guarda. Ho detto che Katta vede i cadaveri fumati dei troll. Però sei ancora lontano. Sto leggendo un manuale di una Arian. Nel frattempo, allora, che per sicurezza con l'arma spirituale gli spappolo la testa. Ok. E poi prendo una candela, l'accendo e lo brucio. Va bene, fine di questo troll. E va bene. Poi spengo la candela e la metto via. Sirron. Suspense. 19. E due successi. Però presto verrà infilzato. Allora. Ma se passa anche il terzo mi stabilizzo, ma non è che mi sveglio uguale, quindi non cambio cazzo. No, ma è stabilizzo. Ti stabilizzi. Sì, però guarda, va bene, trova. È uguale anche se ti risvegli. Grazie, me la stampi tu la scheda. Eric, problemi alla stampante. Rimani nel tuo buco? Ti infili ancora di più la testa nel culo? È che io in realtà non sono andato lontano, quindi dovrei vederli. Provo a rifare perception. Allora, sì, fammi un perception. Vediamo se il PNG. Io ero lì dove PG. Abbiamo combattuto. Non devo c'è ritirare, nessuno. Devo ritirare. Non c'è nessuno attorno a te. Avrei visto la direzione che ha preso il troll. Ma se sta fermo lì. No, io sono fermo e sta fermo, sono tipo a 10 piedi dai. Non lo troverete mai. Sì, ma hai visto che un troll mi inseguiva, cioè potresti. Non voglio andare là. Lui non troverà mai voi e voi non troverete mai lui. Non è dagli stessi. Aspetta. Chi ha il tesoro? Chi ha il tesoro? Parliamoci, chi ha la borsa? Chi ha la borsa? Catta. Me l'ha segnata lui, praticamente. Chi ha la borsa? Sarebbe stato bellissimo. Quindi io devo salvare Katta e poi posso andare. Sarebbe stato bellissimo se la borsa fosse stata mia. Katta, la prossima volta la prendo io. Così ho un motivo per la prossima volta la prendo io. Arian, Philip e Quaker siete nello stesso punto. Vi siete ricongiunti voi tre. Perfetto. Bene, li ho seminati. Non ti credo. Sirron mi fa il terzo tiro. Per ora il terzo successo, no, E allora se è il suo turno rifaccio perception. Ah, sì. Adesso se lo infilzo dopo di lui. Tu adesso siamo fuori dai turni, lui ovviamente mi devi fare i suoi tiri, anzi me li ma puoi di fare. Ma di fallimenti esce? Come fuori dai turni? Sì, voi siete, allora, siete ricongiunti. Beh, lui non lo so, quando decide, allora, di giocare se loro, vediamo. Se loro parlano faccio perception per e dipende cosa fanno loro. Allora fermo. Lui ha fatto, voi tre cosa fate? Un trono, ho messo via la candela. Ora vi siete riuniti, voi tre, che cosa fate? Mi ha finito con un'altra martellata al cazzo. Io dico, ok, li ho seminati, ci abbiamo fatto guadagnare tempo, adesso dobbiamo colpire ora che sono sparpagliati. come dire, anche noi siamo sparpagliati qui. Siamo tutti qua, che manca? Li sento? Ma secondo me infatti potremmo andarci. Vai, perception. Aspetta, hai tu il tesoro? Sì. Perfetto. 8. Cri. Raga, cioè se la gente pensa al suicidio non è che possiamo fare le baglie. Qualcuno... Raga, eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo rivisti all'accampamento, no? Qui guardalo lì. Quale accampamento? Ah no, sì, però guardalo qua che così parli. Sì, sì. Eravamo rimasti d'accordo che saremmo rivisti a casa, no? Lo vogliamo lasciare lì. Di... Mi ricordo anche io qualcosa del genere. Beh, se gli altri fossero in grado di orientarsi in una foresta, cosa di cui dubito. Qualcuno ha visto l'Halfling? È piccolo. Intorno a me. Ormai è così. Io se non sento non mi muovo. Senti, scusa, secondo me la cosa migliore è Vez fuori. Prova a chiedere al cane. Chiedi al cane di rintracciare l'Halfling. Sì. Mentre lo dico, salgo e riprendo la torcia prima che dia fuoco alla foresta. No, è più semplicemente, oh, secondo me si è nascosto qui intorno. La tua soluzione è dare fuoco alla foresta? No, hai capito cosa ho fatto però? Hai preso la torcia? È quella che ho lasciato sulla... La torcia, aspetta, tiriamo un dado percentuale. Sospendo. Io intanto mi faccio dei cura ferite. Tre per l'esempio. Io chiamo a gran voce Eric. Eric, dove sei? Ti sentono i troll. No. Ehi, abbassa il tono. Abbassa il tono. Dobbiamo riunirci perché... Sì, la torcia è per terra spenta. Ne ho una accesa. Ma... Dico a Bracco Baldur's di cercare l'altro. Recupero anche metà delle frecce. Insomma? Ah, state cercando l'Halfling? Io sto cercando. Ho detto al cane di fittare. Fagli fare un perception. Ma porca. Vabbè, io considero che tanto. Ah, ne volevi anche tu, giù? No. Tre giù. Io considero che con Lighting si esaurisca prima che torniamo. Cosa hai fatto di perception? 13. 13. Ok, lo sta cercando. Beh, quanto hai fatto? Un metro, sì. Già l'accampamento. Ne faccio uno anch'io, guarda, così random. Mi guardo intorno. Non so, no, guarda il cielo. Se lui ha urlato, sta continuando. Hai urlato o non hai urlato? Io l'ho chiamata a gran 23. voce. No, aspetta, 24. Ah, hai urlato a gran voce. Ok. 24. Vai, perception con vantaggio. Dai, mi hai fatto sprecare un 19. Ho fatto 24, per super. Sì, ma è che lo sentono anche i cosi. Eccolo. No, sì. Ma io gli ho detto shh. Hai sentito Quaker che ti chiamava. E poi hai sentito e allora esco e mi rigorso di loro. Ok. Senti qualcosa che si muove nel boschetto che si sta avvicinando verso di voi. No, 24 solo qualcosa. Vabbè. Qualcosa di piccolo. Piccolo. Sì. Ok, forse l'Halfling ci ha trovato. Però tu stai zitto, porca troppo. Sirron. Sì, esatto, cazzo urli. Bene, due pari. Hai ragione, capitano. Oh, merda! E facciamo l'ultimo. Non so cosa fanno. Okay, tanto, tanto non arriviamo. Ma un bel troll guaritore? Prova del troll. Il problema è che anche se è stabile, se il troll ti vuole uccidere, ti ammazza. Vai, ti stabilizza il troll. Perché? Stabilizza il troll. Certo. No, ma perché? Perché se muore subito, dopo la carne va male. Sì. Ma vai. Che merda. Volevate fare il tiro? Beh, sì, ha più senso. Ah, fai il tiro allora, se vuoi morire subito. No, faccio 20. Quindi sta... Si risvegli. Ti risvegli? Sì. Davvero? Cominciamo. Col 20 vai, cos'è? Uno. Ah, sì, perfetto, grande scemo, mi piace. Ho possibilità di fare qualcosa subito? Sei legato. Hanno legato un cadavere? Hanno legato una creatura catturata viva. Per mangiarsela. Tutto. Sei dentro un sacco legato. Come il tizio che hai visto, probabilmente. non hai un palo nel culo, tranquillo. senti chiaramente un odorino di bruciato attorno a te, di carne. Devi fare un... Sono dei troll, non sono dei marinai. Sì, ho capito, era meglio star fermo. Vabbè, provo... Slade of Hand. Ovviamente lo faccio senza dimenarmi come un pesce. Slade of Hand o Strength? Slade of Hand, però non lo faccio... Scemo, Slade of Hand o Strength? Slade of Hand è tipo proprio a swishare via. Strength è... Buona concia di gente! No. Sto dicendo Slade of Hand, però lo faccio senza dimenare il corpo. Faccio il Slade of Hand. Essere... Vai, vediamo. Show me. 7, ok, perfetto. Ah, la grande. Si sta lì. Si sta lì. Si sta lì. Il piccolino si muove. Bravo, Sceo. 6 a 1. Sì. Sono vivo. Ehi, questo allora, si muove, ragazzi. Allora, prevenzione, faccio un soft body e recupero 24 punti feriti. Ma che bravino. Vai, che Sceo. Bravo, Sceo. Il mio livello per 3. Non so quanto servirà. Quanti danni fa un palo nel culo? Così per farmi un'idea. Io lo facevo prima quando eri a... Sì, infatti. No, perché usavo le mie azioni per non farmi picchiare da 3 e scappare. Però hanno raggiunto i piedi. Vai, gruppo. Gruppo di eroi, che cosa fate? Più di raggiungere gli altri. Ragazzi, la sfiga, è ora di prenderli di sorpresa. Io, allora, se proprio vogliamo cercare Sirran. Se proprio voglia. No, è vero, rivoglio almeno lo scrigno. Allora, ho un motivo di esistere. Tu vai a cercarlo perché sei quello più abile di noi nel farlo. E sì. Più convinto. Giulio, volerlo fare. Nel gioco mi piace che tu faccia sottovoce. Però non parlare sottovoce perché qua non siete nessuno. Faccio fatica a sentirti io. Vabbè, allora tu, vai tu. Che sappiamo che stai abile. Parlando sottovoce, bravo. Esatto, parlo sottovoce. E poi ci dici la situazione, se ma non possiamo recuperare. Non sarebbe facile, visto che io non ho idea di dove sia andato a chiedere al cane. La direzione almeno. No, ok, per la direzione sì. Okay. Però per avvicinarsi furtivamente sei sicuramente più indicato. E la casa del cane si piega. Soprattutto soprattutto del suo cane, visto alcuni comportamenti bizzarri. Dentro lì, mi dà una direzione. È un mastino celestiale. E gli facciano usare un pezzo di troll cadavere che c'è lì. E non mangio. Di troll, di Sceo. La direzione di Sceo. Non di troll. Troll. Aspetta, non è. No, voi non sapete chi sono i mali troll. Appunto, non è che posso andare nella foresta a caso. Prendiamo una cosa appartenuta a Sceo. Beh, aspetta, no, ci sta. Pario di spirito fregato in qualche modo in questi due giorni. Lo scrigno. E quindi possiamo andare. Esatto, quindi proprio di andare. No, ce l'ha lui lo scrive. Dai, pare di essere più divertente. Dai, non ce ne andiamo. Anche se ce l'ho io, non ce ne andiamo. Però sarebbe divertente che l'avessi. Se Sceo è d'accordo, sì, no. Però vediamo. Non lo so. Fate un tiro contrapposto, se no. Vabbè, guarda pare di sbagli. No, ci fanno tiri contrapposti. Che fa il tiro più alto? Diventi. Dai, tira tu, pare di e scegli tu. No, fallo tu, ci sta. Pari? Ah, siamo lì. Pari, ce l'ho io, dispari, ce la scelgo. Vai. Dispari, ho grande, giusto così. Sono vivo. Il mio... Va bene, Baldur, sconcentrati. Finché il mio scrigno è con me. Devi trovare quello inutile. Annusa bello. Ma annusa cosa? Cioè, gli descrivo, tanto sono in contatto con telepatico con lui. Fallo quindi. Con no, svantaggio. Cosa? Fallo con svantaggio. Aria, per trovare il vabbè, problema. Aspetta. Comunque è questo notte, tutto, cioè, sì, tutto è bruciato, eccetera. È notte. Era crepuscolo. Notte. Vabbè, il crepuscolo, più o meno. Ecco. Sempre più scuro, ovviamente. Ah, no, allora, raga, torniamo un attimo. Vabbè, lui ha una torcia in mano. Filip, tu cosa sì, dici? Sì, ma c'è puzza e bruciato. Fallo con uno svantaggio, solo per la direzione. Poi... Se c'erano i troll, ormai è morto, tanto vale. Se non c'erano... Faccio... Ciao, se c'erano, non saprà raggiungerci al villaggio. Forse. Ma insomma, c'è l'accampamento. Raga, io ho una paura fottuta, non andrò mai... Non dirò mai di andare dentro. Sei di fianco a me adesso. Ho comunque una paura fottuta. Non puoi essere spaventato. No, non so se non puoi essere. Sì, non puoi essere spaventato se sei 10 piedi da me. Ti devi allontanare. Sei spaventato da qualcuno, ma io sono spaventato di carattere. Pensiamoci. Ma chi è che aveva visto i troll? Visti? Io sono andato a vederli al campo. Ah, quindi sappiamo che sono 10. Ne sono 7, sì. Ne sono ancora 7? Sì, quello sì. Sono comunque 7 troll. Ok, che agendo meglio possiamo far meglio. Questo sono molto convinto. Però ormai si fa buio, loro mi sa che sono avvantaggiati. Eh sì. Bisogna vedere tra quante ore. Oddio. Tra quattro minuti. E beh, non saranno le tenebre a gettare. O aspettiamo per cercare di individuarli col fuoco. No, perché ma creare allora, questo quando è in compagnia? L'idea ci sta che vado a vedere dov'è. Però la direzione, cioè non è, io di sicuro non vado alla cieca così. Va bene, provo a trovare la direzione dove è andato Shiro. In che modo? Col svantaggio del cane. Direi. Voglio, c'è da dire che il cane è sempre con noi, quindi sa. Sì, però è buio, fatto. C'è puzza, non ci sa dove interferenze. Deve fare un survival. Mm-hmm. No, beh, segue tracce, penso che non abbia svantaggio, però deve fare un survival, va bene, no? Non so quanto abbia survival. 16. In teoria ha un bonus per seguire tracce. Non lo so che cos'ha, bisogna vedere che cos'ha questo stile. Di solito qualunque cane. Sense. Ah sì? No, se è King Sense ha. Hearing e smell, quindi. Allora il vantaggio. Il vantaggio è Perception, che allora usano il flutto. Esatto, allora tira vantaggio. È Perception, però non ti ho detto survival. Va bene, uguale. Se sta usando l'ho fatto, va bene. Cioè lo sta usando per seguire le tracce. Per trovare le fatto un 17. Ora trova la traccia. Mm-hmm. Ora dovrebbe fare. No, è ora che mi dà la direzione. Ho un incantesimo per localizzare le creature. Sì, trova la direzione, poi per seguire tracce dovreste fare un survival in cui lui vi dà vantaggio. Quindi? O fate un survival che lui vi dà vantaggio, oppure vai tu in quella direzione a caso. Survival. Fate un survival di squadra, con vantaggio. Io zero. Cos'è survival? Tutti tiriamo con vantaggio? No, uno di voi, okay. Chi che vuole. Cos'è survival? O meglio, era di wisdom o più. Ok, faccio io capire. Io più 5 se vi interessa. Anche tu hai 20 in saggezza. Strano, il ranger che sa fare survival, vai! Non penso, ci sento. Penso se l'abbia come. Ah, ok. Abilità, sì. Io sono un guerriero. Non lo so, sono è vero. Anch'io più 5, come vuoi. Ah, fallo tu. Cioè io più 5 perché ho la caratteristica alta. Hai vantaggio. Dove scemo? Non lo so. 13 in massimo. Va bene. Ci mettete un po', però capite, trovate le tracce di scemo. Si avvicina. Allora. Siamo ormai quasi notte. Allora, già tramontato il sole. Sì, allora, però, se troviamo le tracce, le seguo io in stealth per vedere dov'è. Allora, siete verso l'accampamento. Ora vedete i fuochi dell'accampamento. Ah, ok, quindi immaginiamo che sia lì. Che sia andato di là, potete o cercare in generale oppure andare a vedere dall'accampamento. Io andrei in stealth a vedere là. Vediamo. 15. Ok, arrivi in visione dell'accampamento. I troll stanno banchettando, bevendo. Fai un perception? 9, 15. Fai gli occhiali che ti permettono di vedere. Sono tre. Il fuoco, la tonte, sono tre i corpi ammassati nei sacchi, come prima. Vedi però però posso fare un 2 più 2. Ah no, no, ho sentito l'urlo ma non so che hanno sul lato vedi come uno stivale con un pezzo di gamba attaccato, un troll che toglie lo stivale e si mangia il resto. Si capisce che non è mio, è uno stivale. Che scarpe hai? In teoria avrà tipo dei sandali o robe così. Però, giusto, nel sacco non vedo niente. Magari erano quattro prima, chi lo sa. Mm. Oppure hanno mangiato un piede di uno di quelli. Lo stivale sembra abbastanza annerito. Ok, boh, torno da loro e gli dico questa cosa. Dobbiamo sbrigarci. Vedi ogni tanto che i troll vanno lì e tipo con dei bastoni infastidiscono i sacchi. E fanno delle grasse risate. Tipo, posso riprovare uno sventovento per un po'? Posso riprovare uno sventovento per un po'? Dopo che mi hanno ammassato e fermo. No, era questo qua. Cioè ci provo una volta e poi rinuncio. È fatto così. Non è che rinuncio, però tu hai il tuo tentativo di spiegarlo. E se provo forza? Hai fatto slate. Cioè in teoria funziona così, che tu fai il tentativo per provare. Cioè non è che tipo ogni tot puoi provare. Io nel mio equipaggiamento ho un pugnale. Ma non ti avranno spogliato, immagino. Sì, ce l'hai, però sei legato. Cioè non riesco legato. In qualche modo a provare a raggiungerlo. In questo momento sei legato. Se la situazione rimane così, anche perché sei dentro un sacco bloccato. Boh, io gli dico, torno indietro e dico. Cioè, tu sei tipo legato. La situazione è quella di prima. E poi il sacco a sua volta è legato. Mangiando sei bloccato, e fai già hanno sti sacchi, le nostre persone vive dentro. Ogni tanto ti punzecchiano con qualcosa. Senti, non ho visto lui. Cosa vogliamo fare? Dobbiamo salvare quei poveri. Se le tracce vanno lì, le povere anime. Sì, sono in sette, però. Puoi fare assassini. Esatto. Col gran cazzo che ho in mezzo a sette a fare sta puttanata. Così l'arco. Ma non possiamo salvarli senza farci vedere? No, perché un paio di troll si sono lì di fianco. Sono lì di fianco i sacchi. Aspettiamo magari che dormano. Allora, mentre loro perdono tempo, sì. Io sto tutto il tempo in cui discutono a studiare i troll e uso la mia abilità. Beh, in teoria comunque sì. Dopo mangiato che è Know Your Enemy, che è una bella canzone dei Green Day. E niente, mi dovresti chiedo quanti punti ferita hanno i troll e questo cos'è, tipo cheating? Sì, esattamente supremo, tipo sì, metagaming. Praticamente conosce i punti deboli. Hobby internet, siamo a questi livelli. Vai. Voglio sapere quanti punti ferita hanno i troll. 90. La paura. E che altro volete sapere, gente? Una caratteristica, classe armatura. Cosa mangiano? No. Quanto si rigenerano? Se sono vegetariani. Aspetta, neanche quello, alla fine si rigenerano di circa una decina di meno. Cosa gli impedisce la rigenerazione? Non lo sappiamo. Gli attacchi che fanno? Non sappiamo che quello. Quello l'abbiamo visto in teoria. Tipo quando mi tira fuori dal sacco comincia a dire no, sono indigesto. Ma gli attacchi non li posso chiedere. La caratteristica più bassa? No, vabbè, no, sarà intelligente. Devo chiedergli una caratteristica e lui mi deve dire la risposta. Quindi? Vabbè, chiedi costituzione. Costituzione, quanto hanno? Più 20. Fanculo. Va bene, dai. È stato un piacere citare. Tu sai il gigante? Chi è che sa il gigante? Io. Grande. Fammi un perception. A imitare la voce di fronte. Uso un'inspiration. Uso l'inspiration che... per fare perception. No, hai ragione, col cazzo che dimmi. No. Avrei dovuto. 10. Ma allora, i discorsi non sono molto diciamo comprensibili, però comunque non vi serve sapere esattamente cosa stanno dicendo per capire che cosa stanno facendo. Perché mettono praticamente i tre sacchi separati tra di loro, tre sacchi con le persone separati tra di loro, e poi tipo in tre troll si mettono lì tipo a uno, cioè due guardano e tipo uno con un bastone fa tipo 1, 2, 3 e comincia 1, 2, 3 e da dentro ridono e da ogni colpo a ognuno e poi a un certo punto da un colpo a un sacco. E gli altri fanno. E poi prendono il sacco, lo aprono, tirano fuori. Si No, non è Sirron. Dovremmo tirare percentuale, secondo me. Dovremmo tirare percentuale, ma scelgo io. E poi lo portano. Come ha scelto di farvi incontrare. Questo urla come un pazzo di cui fare. No, no, no! Come il tipo che ti voleva dare i volantini. Là. Esatto. E niente, poi lo vanno a impilare su uno spiedo e lo mettono al fuoco. Poteva essere Sirron. Un altro urlo belluino. I due troll assopiti si risvegliano un attimo e tutti si preparano a una nuova scorpacciata di set. Direi di aspettare che iniziano a mangiare. Aspettiamo che siano pieni, poi quando hanno le pance piene attacchiamo. Ma se invece attaccassimo quando stanno mangiando, che hanno le mani occupate. Aspettiamo che stiano mangiando e attacchiamo. Magari si picchiano con le gambe delle persone che stanno mangiando. Vogliamo fare la prossima volta? Per forza. Sì, dai. Va bene, pensateci. Intanto finisce così con... No, anche per forza, perché non riusciamo ad assistare, ci mettiamo altre 6 ore a uccidere. Cioè, vabbè che lì ci sono i fuochi, quindi alla fine basta spingerne uno. Sì, però... Spingere. Vabbè, da cadavere, lo tiri. Vabbè, Vezza, è inutile che prepari questo, basta avere me in compagnia e divento la donzella. È vero, vedi, qui si è aggiunta una... Allora, se li attacchiamo mentre mangiano, si può fare. È un po' sfiga che ci abbiano quel cazzo di 20 alla Costituzione, però. È bello però, perché in realtà il titolo della puntata aveva un altro significato. Però ha avuto senso alla fine. Pure avanti e indietro. Cioè, ha avuto molto senso. Diciamo che potrei fare... con lighting al quinto livello. No, è che... Vabbè, io è ovvio che ho fatto una cazzata, ma è anche divertente farla così. Però... ci stava, è stato sfortunato. Cioè, una cosa secondo me è un po' stupida. Di 10. Hai fatto una cosa coraggiosa che ci stava. Non ha molto senso, vabbè, che sia andato via proprio all'inizio dell'incontro. Ah, quello vabbè, non lo so. Direi che... No, dopo ho fatto una cosa coraggiosa, però che si è un po' rivoltata contro di lui. Cioè, la mia idea era comunque... Non so se la diretta va ancora. No. Cioè, la mia idea, Vez, era comunque in ogni caso tirarli fuori dall'accampamento. Ma c'è riuscito. C'entra quello, ce l'ho fatta. Sfiga. No, la sfiga è che. No, non critico Vez, però la sfiga, che non è stata decisa dalla casualità, ma da Vez, è che correndo via da 3 troll ne ho incontrati altri 4. Quella è stata la mia sfiga, altrimenti avrei continuato a correre e non li avrei presi. Eh beh, tu sei andato a sinistra, lui pure è andato a sinistra e quindi tornando indietro era normale che li beccassi. In realtà io ti ho detto che continuavo dritto. No, e tu mi hai detto che andavi sul lato sinistro, poi lui è andato pure a sinistra e quindi ad un certo punto ci siamo tratti. Sì, ma loro mi hanno... Aspetta, io sono andato a sinistra, poi loro mi hanno attaccato. A quel punto ti ho detto io corro in direzione dei miei compagni, esatto, che era indietro. Esatto. Se lui va a sinistra e io vado indietro, non ha senso che mi ritrovo davanti. No, ma lui è andato verso l'accampamento. Poi dritto. Ha deviato di lato, quando io in realtà stavo tornando indietro. Tu sei andato così e così. Sì, poi nel lui è andato cui... così. Aspetta, nel tu momento... sei andato così? Lui è andato così? No, non sono andato di là. Io nel momento in cui mi hanno attaccato ti ho detto vado dritto nella direzione dei miei compagni. Questo è la Flame Strike non l'avrei. Questo è dove siete voi? Dove eravate voi? Questo è l'accampamento. Ok. Io sono arrivato qui. Tu sei arrivato qua e hai girato qua. Nel momento in cui mi hanno attaccato sono arrivato. Tu sei andato così, ok? Perfetto. Kat ha fatto così. E poi ha girato a 90 gradi. E però. Poi qua è andato così. Quindi tu facendo così. Lui è andato a sinistra. Così come te. E lui è andato a sinistra. Se loro no, questa è la tua sinistra, la sua sinistra è di là. No, tutti e due siete andati là perché stava scappando anche lui. Tutti siete stati verso di là. Io sto andando guardando di qua. Sì, no, entrambi a sinistra dell'accampamento. Lui nel momento in cui ti ha detto vado a sinistra è il momento in cui stava già scappando. No. Lui è andato così. È andato così, tu stavi andando così e quindi vi siete beccati. Tutto semplice. In più li spawn ognuno a 10 piedi. Si sono grossi, le distanze sono quelle. Non è che necessariamente ci sei sbattuto contro, però magari se erano qua, ha detto, ehi, cos'è quella roba? No, ma non mi sto lamentando, sto dicendo che la mia sfiga è stata quella. Se non avessi lamentato gli altri quattro, era flavor, però ci sta. L'ho appena fatto, lo posso rifare, non gli faccio 50 danni, ma sono altri 5 di 10 ogni turno. Dai, che sei strapotenti, avete avuto paura. E avete fatto catturare Scio. Grazie che ho fatto 20. In realtà ci stava, era bello se facevate tipo che riuscivate a portarle prima due, poi due. Esatto. Comunque posso dire Scio. Era quello che volevo fare anch'io. Dopo 15 sessioni. Beh, li guardi tutti. Sì, no, in realtà, ripeto. Ma è sopravvissuto. In realtà, per ora. Forse. In realtà, se ci pensate. È solo perché noi siamo molto buoni. Se non ci fosse avvicinato Katta, per assurdo, no. Adesso la colpa è di Katta, infatti. No, non colpa. Però se non avesse fatto. Cosa vuol dire? Cioè, sei andato da solo. Vabbè, comunque gli stai portando tutti addosso, per la verità. A chi? A loro. Sì. Tre. Poi gli c'erano gli altri quattro che avanzavano, che comunque li hai attirati tu. E beh, arrivavano a orde. Arrivati sì alla fine. E vabbè, tanto cosa cambiava? No, infatti. Sconfitti quei tre cosa avrebbero ma fatto? No, infatti ci stava. Saremmo andati all'accampamento, era uguale. In realtà potenzialmente cioè, poteva essere non... che lui magari nascondendosi riusciva a evitarli tutti e arrivava all'accampamento e non c'era nessuno. Secondo me l'errore più grande di tutti è stato affrontarlo. Secondo me potevano semplicemente aggirarli, metterci due giorni in più e non affrontarli, come avevamo detto all'inizio. Beh, è molto più divertente. È molto più divertente. Ma noi lo facevamo per salvare la gente, cioè io non potevo perché il mio personaggio era un po', però lo facevamo per salvare la gente. Beh, poi scusami, due sono mi sono arrivati addosso fondamentalmente. Quindi non è che avete salvato. Perché io però sono tornato. Sì, perché hai fatto poco di stealth e ti hanno beccato. Sì. Ci sta. No, Scio diceva da inizio le basta le palle. Volendo sì, però alla fine. Però non avremmo salvato la gente. No, si gioca anche per affrontare i pericoli. E va bene, allora, avete visto questo 24esimo episodio di Coloni. Un nuovo dado mi ha salvato la vita. Dove Siron ha rischiato la vita, ma per ora si è salvato. Fatto. E chissà. Sì, dove io invece ho letto un bel manuale per una one shot. Grazie per aver partecipato anche a questa. E va bene, insomma. E vi ricordiamo che ci potete seguire anche se non più con la stessa frequenza di prima, ma insomma proveremo a tornare. Tornare anche meglio dal punto di vista tecnico sulla pagina Facebook di Dungeons & Dragons e quella di GTR e il blog prima o poi lo aggiorneremo. Salgo di livello anche a sto giro, no. L'ho meritato. E vi ringraziamo per averci seguito e speriamo che continuate a farlo per quello che è possibile. Ciao a tutti, ciao. Alle prossime trasmissioni. Grazie Katta per questo. No, te lo per il podcast. Sai che ha il contenuto. Il podcast ce l'ha il contenuto speciale. Per una trasmissione. Io comincio a scappare. Va bene. E tu Las parti, giusto? Parti lunedì proprio. Yes. Okay. Io lunedì sera sono già a casa però. Beh, vuoi giocare subito lunedì sera? Arrivo alle 2 di pomeriggio. Se volete possiamo fare lunedì sera, poi vediamo se c'è l'aso o meno. Ha già connessione tutto. La casa è abitata, quindi penso che già... Sì, sì. Lunedì 18. Sì. Lunedì 18, sì. Al 90% non dovrei avere problemi. Va bene, intanto amici del podcast, alla prossima. Buon martedì.